Eccoci. Benvenuti, benvenuti. Aspettiamo di essere in diretta ancora. Sì. Aspettiamo un attimo. No, vabbè, io farei intanto l'intro come l'abbiamo già fatto l'altra volta, poi ho cancellato il delay di El. Ok. Che dire, benvenuti a un nuovo episodio del Focolare Elettrico, il nostro podcast di videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo e pensavo stessi per dire cinema, non so per quale motivo, il nostro podcast di cinema. Così, a caso. Così, e ancora un'altra volta puntata speciale trasmessa in diretta su Twitch del canale del nostro host XBradipoX. E che dire, chi guarda in diretta avrà questo contenuto con parecchio anticipo, visto che penso che ormai siamo mesi in anticipo, sì. ci stiamo portando avanti col lavoro, mettiamola così. E tra l'altro, per una puntata del genere, essere in anticipo è un male, però cercheremo di parlare con termini generici. Dipende, magari se sei super innovativo può anche andare bene. Direi di aspettare un attimo adesso, fino a che il nostro, come dicevo, nuovo collega ci dà il via per dire che stiamo effettivamente in live. Siamo effettivamente in live. Ho notato ora la perfetta scelta di, come dire, contorno a questa nostra inquadratura. Beh, ci sta. Quindi... Beh, di hot la mia stanza è davvero hot in questo momento, voi no perché avete il condizionatore, lo tube c'è. Però siamo, ti devo dire, aspetta, avevi mandato una sigla di qualche tipo? Perché se l'avevi fatto non l'ho vista sul canale Twitch. O era solo quella grafica che si muove per dire lo stream sta per iniziare? No, era solo la grafica, grazie Andrea per il microfono, ogni volta mi scordo di riattivarlo anche qui perché giustamente non ho la macro per questa scena, la devo fare. Perfetto. Perché sono quindi mega pirla. A questo punto possiamo dire che siamo online da tutte le parti possibili, giusto? Siamo in diretta, c'è la spia rossa. Aspetta, ora farò sfanculare tutto sicuramente. Esatto, ma ora lo metto subito a posto, non vi preoccupate, però altrimenti è un delirio. Invitare Jack e Craig ci ha sballato un po' la grafica. No, sono invece lì io, tranquillo Marco. Perfetto. Vabbè. Mi fido di chi è più esperto di me in questo caso. Buonasera. Quindi Vorla. Anche per, ciao Vorla. Buonasera a tutti quelli della chat e diciamo anche per quelli che sono arrivati, che ci stanno vedendo solo da adesso, che anche questa è una puntata, come dicevamo prima tra di noi, più speciale del normale, ma non troppo speciale a questo punto. Del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design, ospitata anche quest'oggi nel canale di X BradipoX, uno dei più grandi streamer italiani di questi giorni. Sicuramente. Probabilmente possiamo dire che di sicuro ha più pubblico della metà del nostro podcast, molto probabilmente. Quindi direi che e io questo non credo. Quindi di solito Edo, noi diciamo le puntate più normali le cominciamo chiedendo se ci sono novità, notizie importanti, rilevanti. Si chiama la nostra rubrica Download Updates. Stavolta non la faremo all'inizio, la faremo alla fine, poi vedete perché. E poi chiediamo anche che cosa avete giocato di recente, quindi c'è qualche gioco di cui volete parlare, che avete giocato di recente? Ci sta. Bene. È una domanda diciamo da rispondere. Ah, ok, da rispondere adesso. Possiamo andare assolutamente a turni, visto che, come dicevo, e visto che ho fatto l'introduzione prima per il podcast, ma non per quelli che ci stanno guardando in diretta, ricordiamo anche eventualmente a nuovi arrivati che, come dicevamo, due creatori di questo podcast. Io sono Marco. Io sono Jacopo. Mi odia ogni volta che glielo faccio fare, ma io mi diverto con poco. E Quindi, nostro podcast Focolare Elettrico, e che cosa abbiamo giocato questa settimana? Direi che, se me lo permettete, partirei io, che... Prego, prego. Così, sinceramente, ho messo un po' il naso in giro, diciamo, sul mio Steam negli ultimi giorni. Oddio. Oltre ad aver una nuova piccola ossessione che è durata un poco, ma forse sta passando, grazie a Dio, perché altrimenti rischiava di diventare pericolosa per... Oxygen Not Included, il gioco della Clay, spero di pronunciarlo più o meno bene, il nome della casa di developer, che si è rivelato un altro gestionale che, come dire, va a pizzicare le corde giuste per me. Se... Alla Rimworld, insomma. Alla Rimworld, esatto, mi ero stancato del solito Rimworld e ho voluto cambiare un po', e come dicevo prima stava rischiando di diventare una nuova ossessione, ma forse sto riuscendo a controllarmi ultimamente, speriamo. Detto questo, invece, in uno sguizzo, così proprio per provare perché era in offerta su Steam, ho preso un gioco di cui avevo sentito parlare tanto tempo fa, e mi ero sempre chiesto com'era, e ne sconto che si tratta di Gato Roboto, un gioco della Doinksoft, pubblicato dalla Devolver Digital, che, come parlavamo nella scorsa puntata, per chi ci ha seguito la scorsa settimana o per chi ci ascolterà tra un mese probabilmente a questo punto, partecipato alle tre sempre con un altro dei suoi video estremamente assurdi. E, come dire, ha tanti, come publisher ha tantissimi giochi che secondo me che meritano assoluto rispetto in quanto abbastanza creativi e, come dire, che si fanno notare, che si fanno riconoscere tra le sue varie pubblicazioni. E Gato Roboto è un Metroidvania che dura poco, e dura pochissimo, tipo qualche oretta, io l'ho finita tipo in una serata, e tuttavia è molto carino, molto divertente, è un bellissimo snack, no? non è una cena completa, è qualcosina che ti mangi con un po' di fame, ti va di... Poi, giusto per rendervi partecipo della mia esistenza, come regalo di compleanno dal gentilissimo qui presente Jacopo, mio collega. Ah, è vero, me lo sono quasi scordato. Mi ha appunto, come dire... Non era un regalo quello, Marco, non so come dirtelo. Era una maledizione, qualcosa del genere. Non ho la soundboard. È un dono e una maledizione, un po' come Monk. Sì, mi è stato regalato Outer Wilds, gioco che desideravo tantissimo, da tantissimo tempo giocare, ma di nuovo sempre per paura che il computer non reggesse, e perché io sono un procrastinatore di natura, non continuavo a non fare. E che dire? Inizio dicendo che se mi sentite depresso stasera... è probabile, cioè nel senso che... è probabile... Outer Wilds è uno di quei giochi che arriva un po' in sordina, non è il Breath of the Wild che tutti aspettano, tutti sanno che arriverà dalla Nintendo, è uno di quei giochi che appare così un semi dal nulla, per almeno quelli che non sono completamente in fissa con le news di videogiochi, e lentamente prende piede, poi è scandaloso quanto è questo gioco, mettiamola così. Quanto è esplosivo? Storia... decisamente. Una storia che, per quanto effettivamente in totale piccola e, come dire, quasi minuscola nella sua essenza, nel suo spazio, di un'altra battuta qui, che viene però raccontata in una maniera che raramente si era visto prima nel videogioco, nel senso che altri ci avevano provato, ma non bene quanto questo, mi azzarderei a dire, e che comunque dopo un racconto del genere ti colpisce in un modo che fa male, fa male, fa... fa male, fa bene, ti dà, come dire, ti dà tutto un range di emozioni assurdo. E tuttavia, per filosofia del gioco e appunto per, come dire, essendo la filosofia del gioco la scoperta, purtroppo mi ritrovo sempre nella stessa posizione che hanno avuto un po' tutti, cioè che non posso che consigliarvi il gioco con tutto il cuore, tutta la mia volontà. Finché qualcuno non ve lo compra, non vi forza a giocarci. Sì, ma critiche personali a parte, però allo stesso tempo non posso dirvi assolutamente nulla su di esso, se non non so, preparatevi. Faremo un episodio a parte con spoiler warning ovunque, tipo, e tra l'altro chiameremo spoiler l'episodio. E tra l'altro, se mi posso permettere, ovviamente dopo sono andato a guardarmi anche un po' dal punto di vista più di game design, game development, e sono fuori di testa quelli della moda. Sono molto fuori di testa. Sono fuori di testa, ma hanno... Cioè, hanno immaginati, fatto... immaginati, Edo, immaginati, tu lavori la tua tesi, no? La tua tesi di laurea. Ok. Ti laurei, invece di smettere... butti 5 anni della tua vita e soldi per continuarla, sì. Da solo, no, da solo, con altre 4-5 persone. Con uno studio, piccolino, ma comunque uno studio, ma a parte quello che ci può stare, perché alla fine avevano, come dicevano loro, avevano strane cose per le mani, ma avevano comunque qualcosa. A me ha fatto paura nel video che ho visto, che raccontava un po' la loro storia, quello che hanno fatto diciamo quelli che hanno creato, in poche parole, il sistema di fisica del gioco, perché alla fine è tutto il gioco un sistema di fisica. Io mi chiedo come, da dove, cosa hanno fumato quella sera che hanno fumato tutto il gioco come un sistema di fisica, che assurdo, assurdo, no. Veramente follia, però... Ma faremo un episodio a parte, dai, ma non è uno di quei giochi che di come dire, un po' ti rinnova quella voglia di giocare, mettiamola così. Intanto ben arrivato Salla in chat, oppure I am Luca Odis. Buonasera, che ti carissimo. Ti piace la canotta, Salla? Non ho capito se è un apprezzamento oppure se è un... Canotta, hashtag way of life. Niente, io sì, per ora mi fermo qui, direi di aver detto anche troppe cose su... anche troppe cose su Outer Wilds, quindi se qualcun altro vuole parlare di quello che ha giocato in queste ultime settimane, vai. Vado io. Vabbè, oltre a Valorant e TFT, che ormai sono bene o male le costanti, diciamo, e ci ricolleghiamo anche al main topic di oggi, che è il meta, diciamo, parlando di però l'Hottube non funziona proprio così, Salla, ma che vuoi? Dovresti essere dentro. Stai, ce la fai a metterti dentro la Hottube, vedo? Con layout. Aspetta. Dovrei fare tipo... aspetta. Ok, la prossima volta lo penso meglio. Perché... no, ok, la prossima volta lo penso meglio, ma sì, si può sicuramente fare. Forse non è proprio nelle... vabbè, sì, diciamo che nelle ultime settimane ho rigiocato, o meglio... ho giocato a Crash Bandicoot It's About Time. Oh, vero. E ragazzi, devo dire che secondo me merita tanto. Non l'ho giocato tantissimo, però sia a livello di design dei, diciamo, dei livelli del gioco, sia a livello di design proprio grafico, secondo me è molto molto divertente, molto, ci sono molte cose simpatiche e innovative. Dall'altra parte c'è un, secondo me, un bel ritorno a, per molti versi, ai primi capitoli della saga, resi in maniera, diciamo, più giocabile, diciamo così. Quindi anche quello, secondo me, è molto, cioè per me è molto consigliato se siete appassionati di arcade, cose del genere, perché da quel che ho potuto vedere merita. Ok, ci sta. Dici. Io? Certo. A parte anch'io, vabbè, Valorant leggermente, ma ho provato un po' a giocare a Watch Dogs Legion 2 volte. E... la prima volta mi ha fatto innervosire, l'ho disinstallato dopo tipo 10 minuti. La seconda volta ci ho giocato molto di più e sono arrivato quasi alla fine e poi l'ho lasciato perdere perché non avevo una ragione di continuare. Nel senso, questi sono giochi che di solito Watch Dogs, ma anche Far Cry, ci gioco quando ho voglia di roba tipo spazzatura, cioè di Pringles, cochina, cioè cose proprio cibo spazzatura. Per continuare la metafora di esatto, Pringles. Esatto, la metafora del cibo. Esatto. E non ho, cioè al momento non ho troppa voglia, quindi forse lo riprenderò in futuro quando avrò voglia, non lo so. Avevo voglia di qualcosa di più frizzantino, di più, capito, una cosa un po' più fresca. Non l'ho trovata ancora, sto ancora cercando. Forse... il tuo commento mi fa ricordare quella puntata in cui avevamo consigliato che se la gente aveva voglia di giocare a un gioco dei Pokémon, poteva provare... dire, un gioco di Pokémon migliore di Spada e Scudo, poteva provare Watch Dogs Legion. E invece purtroppo ci dobbiamo ricredere, perché anch'io dopo quella puntata mi sono un po' visto cose in giro e come diceva è un Jacopo, po' una cosa fallita, cioè è un'opportunità... diciamo le cose come stanno, avevano un'idea fenomenale, un'esecuzione veramente fatta bene alla base. avevano un sistema fatto veramente assurdamente alla base, fatto molto bene, un'idea. Ti spieghiamo un attimo come funziona, aspetta. Watch Dogs okay, Legion. Torniamo di nuovo indietro. Torniamo indietro, facciamo un passo indietro. Watch Dogs Legion è un gioco tipo GTA, cioè ti puoi muovere per tutta Londra, ma non hai dei personaggi fissi. I personaggi che hai principali, ci sono dei personaggi principali nella storia, perché ovviamente c'è una piccola storia, però i personaggi che giochi sono casuali. Tu vedi un personaggio perché gira per strada, puoi reclutarlo, puoi giocare come quel personaggio, vedi tipo una guardia o un operaio in un cantiere, lo puoi reclutare, vedi qualsiasi persona. E ogni persona ha delle abilità specifiche, ha dei bonus, tipo, che ne so, il tizio, l'operaio, può chiamare un drone che porta tipo il cargo, quindi puoi salirci sotto al suo drone, la guardia può entrare in posti, diciamo, sicuri, così. Ed è un sacco figa come idea, perché queste persone non sono solamente classi, cioè non è che c'è solamente la classe operaio, la classe spia, la classe... guardia, sono anche abilità molto specifiche di quella persona, a volte molto speciali, e routine, cioè quindi cioè, sai cosa fanno durante il giorno, hanno una voce, hanno una personalità, hanno anche relazioni, hanno relazioni con gli hacker, che sarebbero DedSec, che sono i protagonisti, cioè il gruppo protagonista, hanno una relazione con i nemici, gli antagonisti, cioè, e tu puoi anche manipolare la loro relazione verso di te in base a quello che fai. Se tipo tu salvi il fratello di questa qua, lei è più facile da reclutare. Se tu ammazzi o disabiliti l'avversario di quell'altro, cioè, insomma, è un sacco figo come idea, perché più guardi, più vai a scavare dentro un personaggio. Ovviamente la prima volta che lo vedi è solamente un nome, una faccia e un po', cioè la fisionomia, cioè definisce un po' quello che può fare, no? Se è una vecchietta non può mettersi in copertura, non può correre, eccetera. Come la guardi e la miri, la punti, si creano delle cose. Se tu la salvi come potenziale reputa, si creano altre cose. Quindi è anche un sistema dinamico in base a quanto in fondo vai una persona. Ed è un concetto bellissimo, cioè io sta roba l'ho studiata quando ho fatto la tesi in Islanda, cioè c'è un corso che parlava di questa roba, cioè di avere un sistema di personaggi con delle relazioni che tu puoi generare in maniera dinamica. Se ne ammazzi uno te ne serve un altro, ne generi un altro. Cioè, una gran figata, cioè mi ricordo ancora come proprio progetto per quell'esame, per quel corso. Uno degli studenti aveva postato un gioco, secondo me, stupendo, che prima o poi dovranno fare, quindi non voglio spoilerare troppo, ma in sostanza era una cena con delitto, quindi immaginatevi qualcuno è morto, generata ovviamente casualmente, cioè tu può morire una persona a caso, quindi c'è effettivamente una simulazione di un assassino che va in giro per le stanze a uccidere persone, e se uccide una persona importante ne entra un'altra nella casa. Ah, se che tu figa. Cioè la cosa figa è quello che succedeva è che tipo tu eri in una stanza, moriva una persona in un'altra, entrava un maggiordomo a dirti oh è morta questa persona, e tu andavi di là, poi tipo ogni turno entravano persone dalla finestra perché morivano persone importanti, entravano altri maggiordomi da altre stanze, quindi tipo dopo 20 turni c'erano tipo 15 maggiordomi, persone che entravano dalle finestre. Intanto benvenuto Estec, ciao. Quindi si rompeva. Buonasera. O comunque tutto questo per dire Watch Dogs questo sistema non lo sfrutta, tutte le persone possono fare quasi tutto, non c'è un'espansione, non c'è un utilizzo vero e proprio di queste relazioni, è tutto una gimmick, no, come usano un termine per dire, è una cosa solamente per avere qualcosa che sembra diverso, ma funziona, cioè a livello funzionale non cambia nulla, no? È come dire l'HD Rumble nello Switch che nessuno usa, o il touch sulla PS Vita che nessuno usa, cioè è una gimmick, cioè qualcosa che hanno messo lì, hanno buttato e poi nessuno l'ha usata. Infatti la mia ipotesi è che abbiano tipo peso un 90% di quello che avevano per sviluppare un sistema in questo modo, per creare un sistema così complesso e così ben fatto, come dicevamo, invece di catturare i Pokémon catturavi i londinesi praticamente, esatto. E alla fine arrivati al punto in cui dovevano creare del contenuto, creare del vero e proprio gameplay basandosi su questo sistema, avevano un po' hanno riciclato roba, hanno messo collezionabili, solite cose da Watch Dogs. Erano già arrivati sul fondo del barile, non avevano più voglia, o Ubisoft non voleva dargli più soldi per fare altra roba, quindi può essere che ovviamente tutte le nostre sono supposizioni, ma non divaghiamo troppo, che forse stiamo già bravo. Abbiamo fatto in questa introduzione di 30 minuti anche per il podcast, sarà molto interessante. Sì, con questo è che stiamo parlando di, cioè diciamo, questa puntata anche di Twitch è in collaborazione con appunto Jacopo e Marco, che hanno un podcast su videogiochi che appunto si chiama Focolare Elettrico. Ora vi linko in chat. Punto esclamativo, sì. Focolare. Esatto. Per informazioni. E niente, facciamo una breve introduzione con le loro rubriche, eccetera, ma diciamo adesso tornerei sul main focus, diciamo, della puntata, se così vogliamo il dire. Il tema principale, grazie, dell'episodio. Che è il meta. Okay. Io stavo aspettando che il nostro host annunciasse il tema, sai? Okay, per dare, perché come dicevamo sempre nei nostri episodi, anche la volta scorsa, siccome a noi piace il suono delle nostre voci, vogliamo parlare un po' anche Edoardo questa sera per evitare di rubare completamente. Ma no, voi, cioè, siete voi gli esperti, insomma, io sono solamente il conduttore, diciamo, voi siete le figure professionali, insomma. Pippo Baudo, diciamo. Esatto, io sono Pippo Baudo e voi siete, esatto, Jacopo si può permettere il termine, io forse un po' meno, ma... Comunque, no, aspetta, niente. Allora Edo, facciamo così, io adesso ti leggo la definizione originale di meta. Ok, sì, infatti è quello che volevo andare a cercare adesso, stai rubando il format. e poi tu mi dici, Edo, secondo te invece cos'è il meta, perché secondo me non dirai che è questo. Ok, però allora aspetta, allora farei il contrario a questo punto, cioè prima diamo la definizione di meta e poi andiamo a leggere cos'è davvero il meta. Ok, allora vai. Dimmi cos'è il meta. Cos'è il meta, Edo? Allora, secondo me il meta è quell'insieme, diciamo, di... Cioè, o meglio, nel senso, se stiamo parlando di meta all'interno di un videogioco, secondo me è quella serie di, diciamo, regole, caratteristiche proprio interne al gioco che ne definisce un po' il... il miglior modo per essere giocato. Migliore poi, diciamo, è un po' un concetto relativo. Migliore dipende, cioè, diciamo, in termini di performance, proprio di prestazione videoludica, diciamo, chiamiamola così. Quindi è un set di parametri che influenza appunto il gioco e che definisce, diciamo, una serie di scelte che il giocatore può fare per ottimizzare quello che deve fare. Diciamo, più o meno, okay. Secondo me è qualcosa del genere. Ok. Allora, definizione da dizionario, dizionario di internet, quindi che cazzo vuol dire? Ci fidiamo. È un vecchio termine, in realtà, usato negli MMO, okay. Ed è un acronimo, cosa che non sapevo. Neanche io minimamente. Most Effective Tactic Available, quindi la tattica disponibile più efficace. Quella della cronica. Non avevo assolutamente idea che fosse una cronica. Assolutamente. Cioè. No, neanche io. Io pensavo fosse più derivante dalla parola meta, come metafisica o meta. Pure io. Infatti. Perché è qualcosa che va il oltre mondo, questo il è gioco. Esatto, i tre cani dell'internet, quindi non so di nuovo, esatto, quanto veritiera possa essere questa definizione, magari se la sono inventata di sana pianta, però vogliamo crederci per questa sera. Però, cioè, sì, quello che hai detto tu è giusto, cioè, non è una cosa che è nel gioco, è una cosa che si usa per giocare il gioco, ed è una cosa che è un insieme di regole, di tattiche, appunto, che applica un gioco per giocarlo al meglio. Secondo me la cosa interessante del meta è che cambia, nel senso, in un gioco online, se il gioco si evolve e il meta, diciamo, si solidifica, il gioco online diventa un po', cioè muore un pochino, no? Quindi la cosa bella è che di solito il meta si associa ad una cosa che cambia di continuo, no? Perché nel momento in cui un meta si solidifica ne nasce un altro, di solito. Se posso, io l'ho sempre un po' vista come, diciamo, un po' il risultato finale, di solito, perché quando si parla di meta, si parla di un meta definito, quindi che ha avuto un po' di tempo per svilupparsi, ma appunto quello, cioè, del risultato finale della, praticamente della selezione naturale nel campo della competizione, no? Del creare questo sistema con queste risorse a disposizione dei giocatori in questo mondo di regole, e vedere come questo sistema si evolve per poi arrivare a uno stato, diciamo, di equilibrio in cui la sopravvivenza del più forte crea i mazzi di carte migliori, le formazioni, esatto, migliori su TFT. Però questo è un meta, cioè, tu stai definendo tipo questa formazione di carte di character è un meta. Questo, diciamo, tipo il meta dei Forgotten, per esempio, su TFT, no? Sì, no, nel senso, questo, cioè, un meta è quello. Questo è un singolo meta. Poi uno, per definire l'idea di meta, deve immaginare appunto questa evoluzione, questa selezione naturale che ovviamente con il tempo, cambiando le risorse a disposizione, cambiando le regole del gioco con aggiornamenti, patch, espansioni, chiamatele come volete, ovviamente una volta cambiato l'habitat cambia anche poi tutti gli organismi in esso presenti cambiano. Mi piace che dici questa cosa, perché c'è un canale YouTube che fa il ranking degli animali. Quindi fa praticamente il meta del pianeta Terra. Giustamente il meta attuale è build umano, per forza, perché siamo la specie dominante. Però a volte fa anche meta tipo del Giurassico, e quindi trova qual era l'animale più P durante il Giurassico, quali erano i counter nel meta. Beh, devo dire che poi i dinosauri sono stati ben nerfati, perché poi... Esatto, c'è stata la patch distruttiva, esatto, l'evento meteo. Questo si meteo. Può dire che in effetti è un canale molto meta riguardo al meta, se così Sì, esatto. Un canale meta. Acronimo. Perché si può applicare a tutto, no? Cioè, appunto, anche Twitch ha un meta adesso, si può dire. Vabbè, sì, che beh, poi, diciamo, scusami, che la reference per chi avrà l'onore di vedere in diretta questa puntata, magari o recuperarla. Abbiamo lasciato una piccola reference nel, diciamo, nel video. Edo l'ha lasciata per noi. Che... chi lo sa, magari se ci viene in mente qualche video da farvi vedere come la volta scorsa, purtroppo non abbiamo una playlist, esatto, questa sera. Però sì, quindi questo è quello che, come dire, questa è la definizione generale di meta. Intanto la e adesso come riempiamo le altre due ore, Jacopo? Come riempiamo queste altre due ore adesso? No, no, volevo chiedere, cioè io stavo dicendo qualcosa, mi pare. No, beh, diciamo, intanto la chat, se vuole interagire, vuole dire il suo parere sul meta, eccetera. Ovviamente, cioè. Poi sì, vabbè, tu diciamo, hai tirato la freccetta sul bersaglio, hai cominciato a dire del meta di Twitch, facciamo un po' di dramma, dai, ci sta. Cioè, che poi pensavo, ma... cioè, o meglio, forse, diciamo, mi sono dato la risposta, però... diciamo, il meta di Twitch, delle streamer che fanno hot tub, degli streamer, non facciamo sessismo gratuito, perché magari poi... cioè, effettivamente abbiamo detto che il meta è come definizione, è proprio la strada migliore per ottenere qualcosa, proprio da definizione, da acronimo. Sì. E in questo caso, che cos'è il qualcosa, fondamentalmente? I soldi! I soldi, esatto. Vabbè, allora... che tristezza. Beh, allargando un po' di più magari il discorso a questo punto, perché alla fine... ormai il meta, l'idea di meta, come faceva notare Jacopo, è nata con internet, no? Parlando appunto di MMO e giochi del genere, e poi è diventata, come dire, se l'internet è una civiltà, possiamo vederla, questa è diventata, diciamo, una delle basi della sua cultura, no? Anche l'idea proprio di meta è un'idea dell'internet, che è stata poi non adattata, però espansa tutto il resto, cioè ormai si può parlare di meta un po' ovunque in ogni zona di internet, ed è una cosa che i gamers, mi permetto di nuovo usare questo termine, poi tendono a fare in qualsiasi contesto, come anche per esempio quello di Twitch, e alla fine nasce un po' da quell'idea, sempre da quel desiderio di voler essere i migliori, no? Voler arrivare al top, the best of the best, acchiapparli tutti, mettiamola così. Adesso non mi metto a cantare la sigla in inglese perché poi facciamo viewers, i pochi spettatori, però alla fine è quello, cioè nel senso, diciamo che l'aspetto competitivo nel videogioco è di sicuro una cosa che non si può ignorare, e anche forse l'aspetto di, diciamo, quell'idea di ottimizzazione, quell'idea di... il min-maxing, vuoi dire, Marco? Il min-maxing, forse. Assolutamente. Direi che è un aspetto che molto, molto spesso proprio dei giocatori, a questo punto, che sebbene adesso, diciamo, la mandria, che brutto termine, la popolazione di giocatori si sta espandendo, la ricordiamo comunque, è nata sempre molto... Grazie ragazzi che ci seguite. Il gregge, lo sciame, ecco, lo sciame forse lo è un buon termine. Però sì, cioè, siamo sinceri, è tutto molto partito in cui con appunto i nerd, i fanatici delle statistiche, della matematica, che giocavano a giochi di ruolo, no? Classica immagine molto americana della cosa, quindi si può immaginare che con quell'aspetto di voler ottimizzare, di voler trovare la soluzione migliore al problema, abbia fatto nascere un po' tutto questo movimento, mettiamola così. Quindi mi stai dicendo che se faccio un paladino multiclassato druido posso fare 11 di 12 in un turno? È questo che mi stai dicendo? Sì, poi potrei anche disconoscerti, ma questo è un altro discorso. Per fortuna che a livello 18 non ci sono più molte opportunità di multiclassare questo. Non più, no. Beh, però alla fine Cioè, sì, è vero, magari il concetto di meta poi è stato messo, fra virgolette, nero su bianco con, appunto, con gli MMO, eccetera. Ma alla fine, se ci penso, è un concetto, boh, che è sempre esistito, cioè, nel senso, trovare la strada più, diciamo, più conveniente per ottenere un generico obiettivo alla fine, quindi... Eh sì, boh, così tanto puoi generalizzare. Vabbè, dai, che è filosofia, sì, cioè, questa. Ma sì, filosofeggiamo, cioè. Di sicuro... Se volessimo espandere il concetto proprio al massimo, ok, cioè si arriva fino al, come dire, quasi alle competizioni sportive, cioè, in cui si vuole trovare il miglior atleta o cosa del genere, non vorrei... No, no, secondo me è più quello che diceva Edo, cioè è più no, che infatti... la competizione, è più cercare la strada più efficace per fare qualcosa, no? Cioè tu, infatti, come essere umano, non vuoi faticare, limiterei... non vuoi... Assolutamente. Esatto. Infatti limiterei tutto questo, il concetto qua, al mondo appunto dei giochi, no? Ovvero, e non solo, e ancora più limitatamente, non anche includendo gli sport e cose del genere, ma proprio quelli, i giochi, come dire, completi, che oltre a creare le varie regole hanno creato anche tutto il sistema, no? Perché puoi avere un vero meta solo quando in tutto per tutto puoi, diciamo, riuscire, mettiamola così, molto alla Matrix, a vedere tutta la matrice, no? A vedere tutte le regole, sapere tutti i parametri in gioco. A quel punto si può creare un vero meta, quindi cose che non si... Per esempio, non esiste, diciamo, un meta nel calcio, in altri tipi di sport, no? Perché è una... Oltre a essere cose completamente diverse... Beh, oddio! Diverse, no? Non sono sicurissimo, sai? Ora, no, non guarda... mi intendo tantissimo di sport, avrei fatto fatica... Sì, forse sono concetti un po' diversi. Cioè, esatto. Secondo me è vero quello che dici, ma secondo me è anche vero che il concetto di meta esiste dal momento in cui queste regole vengono cambiate. O meglio, possono essere cambiate, perché se penso per esempio appunto a quello che dicevo anche nella prima puntata, con i vecchi giochi, quando i giochi appunto erano su CD, DVD, eccetera, il pacchetto, diciamo, di regole di ottimizzazione era quello. E magari spesso anche online era così, cioè nel senso anche nei giochi online non è che venivano rilasciate chissà quante patch, chissà quante modifiche al gioco, eccetera. Esempio banale. Magari sì, giocavi a FIFA, ma ora non ricordo se è proprio questo l'esempio, però... Magari un tempo giocavi a FIFA e non è che c'erano gli aggiornamenti dei giocatori dopo il calciomercato, cioè nel senso anche dopo il calciomercato i giocatori rimanevano quelli nelle squadre e buonanotte. Quindi in realtà, tra virgolette, il meta delle squadre più forti del gioco era bene o male quello. Sì, c'era un meta, ma non era il meta come lo intendiamo ora. Nel senso, era come in Guild Wars hanno smesso di aggiornarlo. C'era un meta, era quello e basta, cioè non è più cambiato. Esatto, perché in effetti adesso la definizione di meta è da intendere anche come, di, come dire, meta ancora in evoluzione, no? Che come dicevi assolutamente tu, una volta che il gioco ha finito di ricevere aggiornamenti, il gioco è quello e non viene più fatto, si trova il meta giusto per quello stato di gioco, per quella patch, per quell'aggiornamento, e poi è quello. E infatti il meta, per come viene inteso adesso, ora che ci pensiamo, è nato effettivamente anche un po', diciamo che più che è nato è stato popolarizzato molto da questa idea di voler appunto creare questa varietà, cioè di non far morire il gioco, ovvero quello di, esatto, aggiungere nuovo contenuto, cambiare un po' le carte in tavola, visto che poi io vorrei parlare proprio di quello, nel senso i giochi di carte sono un po' forse il mio campo di esperienza, da esperto in questa serata, ed è quello proprio l'esempio più naturale che viene in mente, cioè che soprattutto nei giochi di carte collezionabili, come si può facilmente immaginare, l'idea di meta nasce perché una volta uscita una nuova espansione, creato quel tot numero di carte, si vede che i giocatori iniziano a giocare tutti lo stesso mazzo, o comunque gli stessi mazzi che risultano essere i migliori in quel set di carte, e per evitare che questo gioco diventi troppo ripetitivo e stagnante, a quel punto vengono introdotte delle alternative, nuove carte, vengono a volte rimosse carte vecchie, appunto per non tanto allargare la pool di scelta dei giocatori, ma semplicemente variarla, cioè non farla diventare troppo troppo grande, lasciando incluse tutte le carte stampate fino a quel momento. E io, appunto, come dicevo, vengo da principalmente il mondo delle Magic, con tutti i suoi formati di qualsiasi tipo, dallo standard al vintage, anche se ovviamente vintage e legacy non è che mi siamo mai potuti permettere. Secondo te quanto prenderesti vendendo il tuo set di carte di Magic? Quanti soldi faresti? Ma sai che in realtà io lo sto facendo proprio in questo momento, perché nella mia eterna missione di abbandonare beni materiali, no, stavo un po' in un hobby che ancora che mi piaceva, ma che ormai è un po' un capitolo chiuso del mio passato. Sto un po' vendendo le robe. Che dire, cioè, in realtà sono sempre stato molto più collezionista che giocatore, e alla fine i formati che veramente mi piacevano, che veramente mi avevano fatto impazzire, erano quelli limited, quindi quelli in cui non ti costruivi il mazzo prima, anche se quelli li seguivo un po' più per... No, come uno guarda il calcio, no? Io si guardava i campionati, i giocatori di Magic. Però appunto dicevo, i formati limited, soprattutto il draft... E per cui la mia collezione cresceva con le buste che aprivo durante queste giocate, appunto in questi formati. Qui non c'è stato mai forse un vero e proprio investimento pesante per partecipare a tipi di torneo, così. Okay. Ma allo stesso tempo è una cifra che preferirei non dire in streaming in questo momento. Per dire un po' come la vedi. Ci fidiamo. Non sono mai stato così fissato dal volermi fare i mazzi migliori, mettiamolo così. Però... Ma diciamo che... andiamo. Quindi diciamo meno di 25.000 euro, ma più di 500, diciamo. Perfetto. Direi che come finestra ci siamo, mettiamola così. Ah, intanto buonasera moralizzatore, benvenuto, bentornato. Buonasera. Mi piace la cameretta di quello che sembra nerd. Chi è di quello che sembra nerd? Se siamo tre. È un po'... No, forse io e Marco di più. È un po', come dire, stai un po' sparando in un barile in questo momento. Cioè, la mia per fortuna si vede poco, perché ho un po' di sastra da dietro, però vabbè. Sì, la mia è completo disordine, come puoi vedere, quindi tranquilli. Comunque posso lanciare un'affermazione così, poi reagite, nel senso, dite quello che volete. Come un salame in un corridoio. Lancio un salame. Ti butta fuori dallo stream. E praticamente, allora, un buon meta non è un elemento singolo per me. Cioè, un meta, per essere classificato come decente, non si basa su una carta sola, per esempio, tipo Black Lotus, o su un personaggio solo, tipo Draven, su TFT, o su una build sola, tipo il Trapper. Cioè, deve essere tutto un insieme di fattori, un insieme di considerazioni che hai fatto, per cui si crea questo meta che è solido, che non è una cosa che sembra sbilanciata, sembra nata in maniera emergente dal gioco, mettiamola così, no? È come vedere... scrivendo un meta, tra virgolette, sano, di quelli che funzionano. Non sano, può essere malsano. Cioè, può essere, per esempio, il video che ho visto di Hudson, fatto da Steve HD, dove fa un mazzo che ammazza gli avversari facendogli finire le carte, no? Tu dici, se giochi una partita contro uno del genere, ti viene il cancro. Non so se si può dire su Twitch, la parola cancro. Però... Io mi auguro che sì, spero in di sì. Caso ti ho fatto bannare, sto avendo flashback. Ti viene male, diciamo così. Ti viene male. Però secondo me quello è un meta giusto, non è un buono, giusto, un meta sano, come dici tu, è qualcosa che non ti fa venire il cancro, che va oltre questa cosa. Hot nel canale, hot è la mia stanza, è molto calda, per quello sono in canottiera da napoletano cheat. L'unica cosa hot nel canale è la piscina, sì, è la piscina, esatto. Devo essere sincero, non sono completamente d'accordo su questa, perché oddio, nel senso, cioè, il punto è quello, cioè tu dici un meta giusto... No, scusa, forse ho fatto confusione con quello che hai detto. Cioè, questo lo consideri un meta giusto, un meta... Cioè, è un meta più, come dire, più giusto, cioè non più giusto, più legittimo. Legittimo forse è la parola che cercavo. Un meta giusto allora, è un'altra quello cosa. Quello che volevo dire era questo, nel senso... tu hai detto, non considero questo un meta sano, ma un meta legittimo. Ecco, io non ero in disaccordo perché secondo me quello che hai appena descritto è un meta... legittimo e sano, sinceramente, perché in realtà quello che dici tu che non ti faccia, tra virgolette, venire la parola di nuovo con la C, se non so Twitch, non voglio mettere nei non voglio dare problemi a Edoardo, quindi... Spero si possa dire, però. Cioè, non ci vedo niente di altro. Non lo so, vabbè. Quello che dicevo, appunto, era... Il chiedere anche che un meta di questo tipo che funzioni, che non sia monopolizzato da un solo tipo di strategia, mazzo, formazione, chiamalo come ti pare. No, che tempo... proprio... Sì, e che allo stesso tempo risulti anche, come dire, privo di quelle strategie un po' meno spiacevoli, quello è l'utopia un po', sinceramente. Quello è molto... Quello è chiedere veramente tanto da i developer, ma un po' anche dei giocatori, dove appunto, siamo sinceri, ci sono, come dire, i troll pervadono l'internet, ci sono anche i giocatori che si divertono a usare queste strategie abbastanza da rompicoglioni. Ciao Malesso, benvenuto. Inizia per C e finisce per Azzo, esatto. Fa venire il cazzo, esatto. Beh, qua appunto, come dicevo... Nella storia delle Magic, che è quella che conosco meglio, ma come stavo accennando prima, sono passato un po' anche in giro da altri giochi di carte, passando un po' per Hearthstone, Eterna, altri giochi di questo tipo, eccetera, non mi sto allungare, però nella storia delle Magic sono ben... Sono ben più di uno i casi che molto spesso sono finiti, come dire, in questo tipo, cioè di un meta che la luce in generale... vino, il famoso meta. Esatto. In un meta che in generale, sicuro rispetto ad altri, era sano, era legittimo, ma allo stesso tempo non era privo di completamente problemi, privo di mazzi che... rompevano i coglioni i giocatori che ci giocavano. Ma mai Runeterra? Esatto. Adesso la chat, ho aperto la chat, adesso la chiudo perché sennò... No, Runeterra è arrivato che avevo già un po' finito, diciamo, il mio periodo di giocatore di carte. Da quello che avevo visto cosa dire? Non posso... Marco, sii cattivo, No, ma non tanto su Runeterra, mi dispiace più per Garfield, visto che è stato anche l'ideatore delle Magic, per quanto il gioco si è cambiato parecchio da quando lui l'ha inventato. Però, cioè, Garfield, cos'hai tirato fuori un pochino? Dice, mettiamola così, non aggiungiamo... Poverino, mi sta così simpatico. Ah, cattiveria. E invece esperienze di malo meta? Ma quindi tu sei d'accordo con questa affermazione? Sì, diciamo, cioè, abbastanza, nel senso, ha messa sulle balle un meta troppo indirizzato verso la poca variabilità, diciamo. Cioè, ha messa sulle balle, vabbè, faccio l'esempio di TFT perché è quello più che ho più fresco, insomma. Ha messo sulle balle vedere sempre gli stessi team, cioè, o meglio, vedere che gli stessi team possono fare primo, secondo, terzo, quarto posto nella stessa partita. Vabbè. Cioè, quello secondo me vuol dire che non... Cioè, che il match... Cioè, non, il... non tanto il matchmaking, quanto proprio il meta si è sbagliato, perché... Cioè, spiego un attimo per farla in breve, perché magari non è chiaro. In TFT ci sono... c'è una pool fissa di carte uguali. Quindi, sostanzialmente, se più persone, se più giocatori si indirizzano verso un determinato team, una determinata, diciamo, combinazione di queste carte, è più difficile che gli altri giocatori trovino proprio quelle carte. Quindi, diciamo, è più facile che gli altri giocatori, o meglio, che questi giocatori siano svantaggiati a vicenda. Quindi arrivare a fine partita con quattro giocatori che hanno sostanzialmente la stessa combinazione di carte e tutti e quattro siano nei primi quattro posti, per me un meta del genere non ha senso. Cioè, vuol dire che quelle carte sono troppo forti rispetto alle altre. Però, ok, ci sono tante variabili nel gioco, quello che si può dire, la sfiga, comunque il gioco, almeno nel caso di TFT, è un RNG, quindi ci sta avere sfiga. Però, diciamo, se nelle ultime 20 partite, nelle prime 4 posizioni, ci sono almeno due team uguali basati su quelle carte, ecco, già comincerei quella a dire, ma forse... Adesso è letteralmente la definizione invece del meta malsano, ovvero quello in cui si riesce effettivamente a... È strano, no? Perché va quasi contro la sua stessa definizione, in cui si è trovata la strategia più efficace, secondo me è solamente cancroso, non è malsano, nel senso, cioè, o meglio, non è illegittimo, perché illegittimo per me è, nel caso di TFT, non è che tu hai quel team e di quel team c'è un personaggio che è più forte, quindi basta che fai quello ed è una conseguenza di quel personaggio. È un team che devi fare tutto, quindi, cioè, è comunque un, come posso dire, un meta più distribuito. Cioè, quello che dicevo io è che non c'è un meta, non c'è un insieme di regole, c'è semplicemente un elemento che è talmente barato che basta quello, non devi pensare ad altro. Invece, magari, avendo un team, avendo un deck che devi fare, anche se è un deck tipo, appunto, quello che dicevo prima, che ti fa finire le carte, devi comunque avere le condizioni giuste. In TFT devi comunque contrastare bene gli altri che stanno facendo il tuo stesso team, no? Cioè, quei tizi che dicevi tu, Edo, non è che hanno solamente stupidamente fatto quel team, cioè prendendolo a culo, cioè avranno avuto un minimo di tattica, di economia per come cercare di contrastare gli altri tre e di prendere quelli. È vero, bisogna dire, in effetti, in una situazione come TFT, quando ci sono giocatori molto esperti, forse a livelli, diciamo, i più alti, si magari è una situazione che si vede un po' meno, nel senso che, appunto, un giocatore riesce magari a intuire anche cosa fanno i suoi avversari, cosa fanno, quanto vale la pena magari chiudersi su una strategia piuttosto che un'altra. E quindi sì, diciamo che forse è un meta un po' sbilanciato in questo caso, perché c'è una strategia migliore delle altre, nella visione generale della cosa, però comunque non è una di quelle situazioni in cui il meta diventa effettivamente malsano da dire proprio, oh, ogni partita che faccio combatto solo con altri 7 giocatori che fanno tutti la stessa squadra, fanno tutti la stessa formazione. Mentre io in effetti stavo più pensando a... In realtà è successo anche abbastanza di recente, credo forse un anno e mezzo fa o giù di lì, con una delle espansioni. Mi ricordo che stavo guardando sempre da fuori, perché ogni tanto un po' guardo ancora per curiosità mia, per ricordare i bei vecchi tempi, vari tornei di Magic, il meta, no, del gioco, e mi sorprendevo nel vedere che tipo uno dei Grand Prix, che era una delle più grandi competizioni, tipo il 90% dei mazzi nella top 32 era lo stesso, praticamente la stessa identica lista, perché erano uscite un paio di carte, erano uscite proprio dei mazzi che avevano erano barati, cioè c'erano state delle carte che avevano veramente rotto appunto il meta, come e infatti mi sorprendo sempre di come soprattutto negli ultimi anni la Wizard si sia lasciato molto andare nella creazione di nuove carte del genere, nel senso non è la prima volta, non l'ha fatto una volta sola negli ultimi anni, quella di dover bannare proprio con anche, come dire, decisioni straordinarie, perché dovete sapere che esistono date precise durante durante il calendario degli eventi della Wizard in cui vengono annunciate le nuove ban list, si decide quali carte vengono bannate, quali vengono prese di nuovo disponibili, eccetera, e c'è stato più di una volta negli ultimi anni in cui ci sono state annunci eccezionali per carte che avevano veramente rotto completamente il meta del momento. Quindi io stavo pensando effettivamente più a quegli esempi quando dicevo un meta malsano, un meta che non funziona, mentre un esempio come TFT, la cosa è comunque più gestibile, diciamo. Adesso non sono più così informato, ma ci sono state patch straordinarie per poter ribilanciare personaggi, o più o meno le patch sono uscite nelle date in cui dovevano uscire, non so, ci sono state ban eccezionali, cose del genere, mi rimetto a voi, alla vostra conoscenza. Comunque, il discorso sul ban delle carte mi ha fatto tornare in mente qualcosa della mia infanzia, ovvero parliamo di Yu-Gi-Oh! Anche se quello ne ho poi un paio di cose da dire. Niente, io avevo dei mazzi pieni di buchi neri e resuscita mostro e niente. Addio! Spettacolare. Ecco, non voglio monopolizzare la serata parlando solo di giochi di carte, però anche su Yu-Gi-Oh! Cioè, Yu-Gi-Oh! Invece mi ha sempre impressionato come fosse una cosa che proprio io non riuscivo a farmi un piacere, diciamo, la parte competitiva, la parte un po' più professionale, tra virgolette. Perché cioè, anche io che non ero così esperto ai tempi, perché alla fine ci giocavo, che ero comunque ancora un po' un ragazzino così, cioè io mi rendevo conto, c'erano delle carte baratissime, Yu-Gi-Oh, soprattutto nelle prime edizioni. Sì. Erano cose assurde, io dicevo, ma come cavolo si fa a giocare una cosa del genere? È follia, po'. Una carta perché che dovevi sentirti figo come nell'anime. Dovevi credere nel cuore delle carte, in effetti, esatto. Perché ci sta. E tuttavia ho anche un altro esempio di Yu-Gi-Oh, perché ci sono alcuni esempi, mi ero riguardato alcuni video su YouTube su appunto l'evoluzione del meta di Yu-Gi-Oh qualche tempo fa, e c'erano cose bellissime del tipo che i meta un po' sbilanciati, un po' malsani, come dicevo prima, sono brutti perché ci sta in mezzo, però a volte succedono cose che poi ti fanno un po' sbellicare, nel senso che mi ricordo uno dei video parlava di come alcuni meta fossero state ribaltate da carte che nessuno aveva mai pensato di usare, fino a che qualcuno ha detto, ma aspetta, ma forse posso fare questa cosa qui per fermare questa strategia che letteralmente tutti usano. Quindi, non so, è divertente vedere come in questi casi il meta è tipo consolidato, c'è uno o due mazzi il giorno prima, poi dopo salta fuori uno che bam, esplode, ribalta sì. Tutta e manda a fanculo questa cosa a me piace tantissimo. Sì, infatti posso dire una cosa, questa è un'altra cosa controversa a cui voglio di cui voglio sentire le vostre reazioni. Vai. Secondo me il meta è un po' sbagliato, nel senso, in generale come concetto è meglio giocare un gioco. Vorresti queste situazioni? Vorresti questi? Cioè, allora, per carità, allora, non sto dicendo che nessun gioco dovrebbe avere il meta, però cioè, anche perché ci sono queste situazioni fighe dove è figo avere questo ribaltamento del meta, questo stravolgimento del meta, eccetera. Però stavo pensando, i giochi che, cioè, dove è più interessante giocare, forse è quelli dove il meta ancora non c'è, o meglio, le partite magari dove si sta cercando il meta, o giocare a un livello magari di competizione più basso dove il meta non è importante, no? Tipo su Valorant, pensavo, o su Halo, dove il meta di solito non c'è, anche se qui si potrebbe opinare, però. Più o meno. Cioè, è figo perché hai l'opportunità di fare il cazzo che ti pare, di fare una build come ti pare, di avere un team come ti pare, e sperimentare con le tue, ovviamente, possibilità, perché diciamo ora il meta lo cerchi su internet, cioè, ma non so qual è il sito, però di solito cerchi, ok, qual è la comp che vince di più tutti gli effetti, qual è il mazzo più usato, cioè, è una cosa che gli esperti declarano e che tutti seguono, ed è bello che comunque ci sia, che venga stravolto, per carità, però cioè, ripensavo un po' a Valorant, io veramente ci sono dei team che non si possono fare, che sono, che, cioè, che è difficile vincerci rispetto ad altri, ma la varietà è alta, mi sembra, cioè, mi sembra un po' per come è fatto il gioco. Cioè, ok, è vero che per il livello a cui giochiamo noi è basso, quindi non c'è questa grande importanza dei personaggi scelti. Però, boh, non lo so, mi sembrava... Non lo so, ho pensato che questa cosa l'ho detta. Lì si entra un po' forse nel campo delle preferenze. Intanto, non vorrei interromperti prima, ma vorrei... Volevo dirti che probabilmente mi sembra che tu abbia fatto colpo su il moralizzatore che sta partecipando attivamente alla chat in questo momento. Esatto. Chiede anche qual è il mazzo più grosso che ho avuto sotto mano, ma come dicevamo prima, non vorremmo rompere il meta di Twitch, non vorremmo mettere nei guai Edo, quindi... Esatto. E in generale non vorrei percorrere quel tipo di meta, sinceramente, quindi se per possibile. Per tornare a quello che diceva Jacopo, invece, che appunto lì forse si entra un po' nel campo delle preferenze, perché alla fine... In realtà anch'io, un po' preferenza mia è la stessa tua, perché, come dicevo prima, io in Magic mi ero innamorato dei formati limited, che sono alla fine non tanto la risposta, perché nascono... la risposta, perché non nascono prima loro, nascono prima i formati costruiti. Sono appunto la risposta, diciamo, a quelli che non avevano troppa voglia di spendere centinaia di dollari, euro per crearsi il mazzo da usare in un formato costruito e che appunto non avevano voglia di partecipare in, come dire, in situazioni così competitive, così di esperti, così diciamo già tutte studiate, già tutte analizzate fino nel più piccolo per trovare le strategie migliori, e quindi ripiegavano sul formato limited, ovvero quelli in cui più che la preparazione e l'investimento monetario, mettiamolo così, più che premiare queste cose, più che premiare appunto l'investimento monetario e la preparazione del mazzo, veniva premiata la capacità di strategia, le competenze del giocatore, in cui con una pool di carte completamente randomica, si creava aprendo delle buste chiuse, poi dopo si costruivano mazzi che potevano appunto per scontrarsi con gli altri giocatori. E quindi quello, cioè alla fine c'è chi preferisce il Constructed, c'è chi preferisce il Limited del Magic. Posso immaginare che in altri giochi magari questa cosa sia più difficile da implementare se non usano una struttura da gioco di carte classico, quindi no, però è un concetto più generale, secondo me, cioè un po' ti piacerebbe magari, come dire, anche un po' quell'idea che tutte le strategie possano essere valide, no? E allo stesso tempo quasi tutte cioè che siano talmente tante che si equilibrano, che cioè, esatto, ce ne sono 20 diverse, quindi cioè. Okay. Sì, diciamo allo stesso tempo mi viene da dire, scusa, lascio parlare Edo, mettono sempre in mente la frase degli incredibili, no? Quando tutti sono speciali, alla fine nessuno sì. sa più. Tutte le strategie sono valide, allora forse si perde quell'idea di, come dire, poterselo, magari, quel godimento magari delle persone, appunto, di studiare. Ma non sto dicendo, non sto dicendo che non devono esserci, non sto dicendo che non devono esserci strategie. Sto dicendo che ce ne devono essere talmente tante valide che sono più quelle valide che quelle non valide quasi, e quindi si crea un meta sempre in evoluzione. Comunque, scusa, ti abbiamo interrotto 3 volte. No, no, no, ma che... No, cioè, il discorso che facevi tu, cioè, secondo me ci sta, diciamo, permettere tanti tipi di strategie diverse. Cioè, mi rendo conto che non sia facile, perché magari, cioè, soprattutto nei giochi di adesso, comunque le variabili sono sempre tantissime. Quindi, diciamo, riuscire a bilanciare in maniera sensata tutto, cioè, comunque penso sia parecchio tosto. D'altra parte, mi viene da dire anche che, come dice appunto spesso Paolo Cannone, se sei forte sali, cioè, alla fine sembra una cagata, cioè dici, vabbè, ma vaffanculo, però, cioè, nel senso, fondamentalmente è vero, voglio dire. Sentendo anche, vabbè, faccio riferimento sia a Valorant che a TFT ora magari, sentendo anche magari Balotelli, Luque, tutti, diciamo, i pro player italiani di TFT, cioè, effettivamente anche da loro senti spesso questa frase, ma perché ci sono, cioè, diciamo, diciamo, il tuo playstyle, tu devi sapere che determinate cose non puoi farle con nessuna, magari, con nessuna composizione del team, è sbagliato, boh, esempio stupido, rerollare subito prima dei minion, perché sostanzialmente butti monete. Cioè, capito, c'è un kit di regole che bene o male è valido per qualsiasi composizione della squadra, e teoricamente, ora, non succede in tutte le patch, però, diciamo, nel 90% delle patch, secondo me, dovrebbe succedere che questa composizione di regole ti permette di salire sempre, cioè di migliorare il tuo gameplay sempre. Sì, c'è una. Sì, ho capito che intendi. Una specie Però di set quello è base già di cose più. da non fare. Esatto, cioè, nel senso, però quello è Esatto. già più gioco. Cioè, forse quello è proprio la distinzione tra gioco e meta. Nel senso, quelle sono Sì, le regole del esatto. gioco. No, Il infatti, meta questo è per invece. rispondere un po' cioè, anche a Jacopo, che aveva detto: sì, ok, però ci sono delle composizioni, diciamo, troppo sbagliate, cioè magari contro cui non puoi vincere. E qui ti dico: cioè, dipende un po' dal livello a cui giochi. Ovviamente, per fare l'esempio di Valorant, se tu sai sparare molto meglio dei tuoi avversari, pur essendo. Vabbè. Esempio Sì. scemo, vieni da Counter-Strike, non hai idea di quello che facciano i personaggi di Valorant, ma se sei un pro player di Counter-Strike, ci prendi, cioè, Sì. verosimilmente, ci prendi. Arriverai a un certo punto in cui magari comincerai a trovare cioè, giocatori che sanno sparare come te, ma che hanno anche un background diverso a livello di abilità personaggi, conoscenza delle mappe, eccetera, per cui ti bloccherai e dovrai fare lo sforzo di migliorare il tuo gameplay anche dagli altri punti di vista. Diciamo che il meta equilibrato, secondo me, è un meta che ti permette di salire anche se sei più bravo, cioè se sei più bravo e non ti fa rimanere fisso al punto dove sei, anche se sei più bravo. Cioè, forse sì, esatto, forse è più la seconda, cioè. Anche se tu sei più bravo, non ti blocca, diciamo. Sono d'accordo, è quello che stavo cercando, forse l'hai detto bene tu, forse. Cioè, il meta giusto è quello che ti permette di imparare, perché una cosa che dice sempre Paolo è sempre imparare, sempre capire dove hai sbagliato, sempre migliorarti, che è la cosa che rende migliore alla fine. Sì, esatto. Non è tanto quello che dici tu, magari avere la comp giusta, quanto magari poter imparare quali sono le comp sbagliate, poter imparare quali sono le cose da non fare mai. quindi imparare le basi del gioco e da lì ricavare da solo il tuo meta, no? Cioè il tuo meta interno, ma senza aver bisogno di leggere forum. Per dire, per mia esperienza, imparando, ho capito che ne so, nello stesso team non ci deve essere Cypher e Sova, per fare un esempio, magari non è neanche vero, però dico, per mia esperienza, una comp giusta non dovrebbe avere queste caratteristiche. Esatto. Cambia anche dalla mappa, cioè comincia a imparare queste cose, però secondo me appunto il meta giusto, sano, ti lascia imparare le cose da solo, senza aver bisogno esatto. di cercarle. Sì, sì. Questo sono d'accordo. Ecco, forse io romperemo un po' a disaccordo, perché effettivamente stavo notando che a seconda anche da quale gioco tu stai giocando, no? A quale, e quindi di conseguenza a quale meta ti stai interessando, cambia forse anche un po' la definizione, perché infatti quando hai detto ti crei un po' il tuo meta, quella è la cosa più simile a quella che avevo in mente io, ovvero sempre Magic, perché è il mio punto di riferimento base, alla fine si vedeva, come dire, si giudicava un meta buono, interessante, comunque sano, quando i giocatori che partecipavano, diciamo, avevano una possibilità di scelta, nel senso che uno poteva decidere che strategia usare, non tra tutte quelle esistenti in Magic, ma diciamo tra quelle che effettivamente funzionavano in quel meta, però era comunque una strategia valida, cioè non quando il formato era, come si dice, dominato da un singolo mazzo. Ovvero uno poteva trovare il suo mazzo di interesse, modificarlo anche un po', ribilanciarlo contro qualcosa, cercare di modificare un po' di fine tuning, ecco, contro i suoi avversari, però il punto era quello, cioè il meta nasceva perché c'erano strategie migliori di altre, e un meta giusto era quello che aveva abbastanza strategie dal permetterti di sceglierne una che ti piaceva più delle altre, che magari in cui magari volevi specializzarti, mettiamola così. Quindi anche lì era un po' diverso da noi, alla fine lì forse anche quello, perché in un sistema di mazzi costruito come questo tu dovevi imparare il tuo mazzo, cioè nel senso tu sceglievi una strategia e poi dopo imparavi quali erano le mosse giusto contro le singole strategie avversarie, nel senso tu studiavi i match, inteso, come si dice, le combinazioni di strategie, cioè nel senso tu sapevi questa strategia contro quest'altra aveva questo punto. Sì, però tu stai dicendo tu ti scegli un mazzo e poi impari a usare il mazzo, invece noi stiamo cercando di dire, cioè forse un meta migliore è che tu arrivi da solo a farti un mazzo, come dicevi tu prima, nella limite. Sì, no, limite quello che dicevo io era che effettivamente partiamo da due basi completamente differenti, nel senso che sono due giochi differenti, inteso, ecco, TFT e so poi l'esempio perché mi ci sono appassionato un po', cos'è, l'anno scorso, ecco, TFT assomiglia molto di più al Limited di Magic, non al costruito, perché appunto consiste nel costruirsi, tra virgolette, il mazzo / squadra nel mentre si gioca. E se poi no, è quello, cioè forse era questo che io intendevo, un tipo diverso di meta, perché avevo in mente un tipo diverso di gioco. No, ma per me, cioè, si parla sempre di meta, però ti sto dicendo, tra i due preferisco quello Limited, perché è più simile a quest'idea che abbiamo dell'idea di costruirti da solo il meta. Cioè, mi sembra più interessante come giocatore. Puoi imparare no, ma più... certo, ma io sono anche uno di quelli che è assolutamente convinto che un meta sia più interessante quando c'è come faccio a spiegarlo, quando non è solo completamente basato su preparazione precedente, ma no, strategia attuale. Infatti mi verrebbe sì, sono d'accordo. Mi verrebbe da dire, trovi più interessante il meta di TFT o il meta di LOL? Di LOL, scusate. Posso immaginare quello di TFT probabilmente. Al momento sì, ma perché cioè, sono più interessato a vedere giocare sempre. Il parallelismo è quello lì, mi verrebbe da dire che LOL è il Constructed e TFT è il Limited. No, cioè magari anche LOL può essere qualcosa in evoluzione, qualcosa di Limited, ma sicuramente ha più paletti. Ha più impedimenti per farlo, ha ruoli più fissi, ha tanta storia dietro, secondo me, rispetto a te. Però alla fine, se ci pensi un po', in LOL tu scegli il o i tuoi personaggi / mazzi e poi dopo impari quelli. Sì, ma io dico, tu devi partire da prima, cioè, il meta vero è prima, però. Cioè, il meta vero è... Cioè, non so come spiegarlo, è qualcosa che tu guardi su internet e leggi, ok, in LOL adesso il team forte è, che ne so, Pantheon con Blitzcrank in bot lane, qui c'è questo, c'è Sion in top, non so di nomi a caso, però, cioè, per me sceglierti un mazzo e andare su internet e cercare qual è la composizione migliore del team o la comp migliore su TFT, e poi giocare per realizzarla, no? Ovviamente c'è tutto un discorso di ban su LOL, c'è la draft, no? Appunto la draft come su Magic, c'è anche un discorso di contestare su TFT, insomma, non è banale poi realizzarlo quell'idea, quel sogno. No, certo, però diciamo... Cioè non sto dicendo che... Cosa sto cercando di dire? Ho perso anche un po' quello. Era giusto per dire sì, cioè sul fatto che anch'io ritenga che sia più interessante un meta che... Perché ovviamente anche in Magic esisteva un meta nel formato Limited. Di solito erano le carte che se tu vedevi passare in una busta o se la trovavi nella busta che aprivi tu nel tuo turno, si chiamavano gli slam pick, no? Praticamente tu prendevi poi lo slam sul tavolo, talmente velocemente sceglievi la carta che c'era in quella busta. Per cui esiste il meta, però c'è più una strategia dietro, c'è più appunto un imparare in, come dire, anche a leggere le situazioni, al vedere che se ti trovi in questa situazione al momento il tuo meta stesso varia, no? Perché non sei il meta, tra virgolette, che vedi su tutti i giorni su internet, è quello ideale, perché se noi apriamo il sito TFT comp, vediamo che al primo posto c'è quella combinazione e quella è l'ideale, no? Se tu riuscissi a fare quella combinazione... Non è detto che ci arrivi, però... Però magari tipo nei primi 5 turni di gioco ti arrivano tutte carte di un'altra combinazione, proprio non ne vedi neanche una della prima combinazione. E a quel punto cosa devi fare? Lì sei tu che devi... Continuare, dritto, con i malocchi. Mi devi non guardare niente. Punto. No, certo, quella è la soluzione migliore. Quando zero. Nel dubbio... Forzare e basta. Nel dubbio si forza. Cioè Marco, io sono d'accordo con te, però fino a un certo punto, nel senso che... cioè è facile confonderli, ma secondo me stiamo confondendo un po' il discorso, cioè il meta e la bravura al gioco, cioè l'aver capito come funziona il gioco. Bravissimo, perché anche secondo me stavamo un po' iniziando a mischiare un po' i discorsi così. Cioè il meta, cioè sì, che poi in realtà diciamo ci sta secondo me, perché secondo me per definire un meta sensato c'è un po' da valutare anche, diciamo, la bravura, diciamo, il grado di comprensione del gioco da parte del giocatore. Cioè, per come la vedo io, è sicuramente questo va anche contro di me, perché nel senso non è che io abbia la comprensione di un gioco, non è che io abbia mai avuto la comprensione di un gioco a livelli così alti, però un gioco per cui semplicemente copiare e incollare quello che ti dice il tizio random su YouTube e che ti fa arrivare a livelli alti, cioè per me quel meta è sbagliato. Nel senso, ma secondo me anche tipo, faccio un esempio scemo, su Halo 1, sul primo Halo, c'era la pistola, che era un'arma, cioè, completamente sbagliata, esatto, che potevi usarla da cecchino, fucile a pompa, arma automatica, cioè nel senso... Potevi cioè, tagliare la carne, tritare le verdure... Esatto. Sì, risolveva i problemi in Medio Oriente, cioè praticamente faceva tutto quello che volevi. Probabilmente dei giocatori, magari, che usavano solamente la pistola, battevano giocatori, non lo so, sto parlando un po' per ipotesi, però... Giocatori che sapevano utilizzare solo la pistola, magari battevano giocatori che avevano in generale magari una comprensione del gioco migliore, ma a cui faceva cagare utilizzare sempre solo la pistola, semplicemente perché la pistola, la Magnum, era un'arma totalmente sbilanciata. Cioè, in questo senso, secondo me, c'entra il grado di comprensione del gioco da parte del giocatore. Cioè, un meta non può favorire sempre chi ne abusa, se così vogliamo, se così vogliamo dirlo, spesso abusiamo. Bello, che alla fine forse non è nemmeno troppo distante da quello che, ora che ci sto cercando di ricordare e riprendere un attimo i fili del discorso, era il punto a cui volevo arrivare io, cioè che alla fine la mia definizione di meta sano è quella che offre un buon numero di alternative, non tutte necessariamente equalmente valide. Ci possono essere ci sono comunque i tier nel meta, no? Tier 1, tier 2, sì. Tier 3, tier 0, proprio quelli. E quindi non devono essere per forza tutte tier 0 le cose, però devono essere comunque, devono avere un certo numero di alternative valide. Perché se un meta si presenta in questo modo, come la composizione dei TFT, i mazzi delle Magic, eccetera, vuol dire che comunque c'è la possibilità all'interno... come faccio a spiegarlo? Cioè, se il meta si è sviluppato in questo modo, vuol dire che comunque all'interno c'è questa possibilità di crescita, di apprendimento, di creatività che diceva prima Jacopo. Cioè sono due cose collegate, era quello che volevo dire. Sì, sicuramente. È quella alla fine il mio punto, che un buon meta è un meta vario. Non sarà questa rivelazione. Oh, finale, infatti penso. Siamo sì, arrivati. Però sì, vabbè, su questo che penso che... Per definizione la cosa, alla fine è quello che su cui si basa una... È sempre stato quella la definizione alla fine, per cui non abbiamo detto, almeno io non ho detto nulla di innovativo. Però posso avere un'altra domanda? Vai, Spar. Avete degli esempi, magari in breve, perché dopo vogliamo avere positive vibes, non troppe negative vibes, esempi di meta che vi hanno veramente ucciso la vita, cioè proprio radiazioni pure, beta, gamma, cioè proprio... Toxic completo, perché cioè io stavo pensando, l'altro ho detto ok, il meta di Halo 1 con la Magnum a me piaceva, io sono un fanatico delle Magnum, è un'arma di precisione, ok, legittimo. Io ho due esempi, il meta di Halo Reach con l'Armor Lock e la granata al plasma, io me lo sogno la notte, io c'ho ancora gli incubi. Beh, quello è ben terrificante. Cioè, quello che succedeva, Marco, quello che succedeva era questo. Immagina il nemico di Sirius Sam che ha la bomba in testa così e corre verso di te urlando. Però, invece di morire appena ti raggiunge, la granata te la appiccica addosso, condannandoti a morte, e poi si mette in armor lock, fermo, invulnerabile, e tu esplodi e lui poi continua per la sua strada. Questo è il meta dello Reach con la granata al plasma e l'armor lock. E quindi l'evoluzione del kamikaze, quello che mi sembra. Esatto, l'evoluzione del kamikaze. Questo è un meta che mi è rimasto impresso per quanto era brutto. E poi vabbè, il famoso meta di Warwick con tre static in effettivo per quello era veramente brutto. Quello era proprio brutto. Ma un meta, diciamo, sto pensando un po'. Pensate un po' a tutti i giochi che avete giocato. Si viene in mente un momento particolarmente basso del meta di quel gioco. Allora, sì. E qui torniamo molto indietro nel tempo. Torniamo a Guild Wars 1. Ok, sapevo che stava per arrivare. E c'era questa. Vabbè, in Ascesa degli Eroi, sostanzialmente, per chi non lo sapesse, Ascesa degli Eroi era una delle modalità PvP di Guild Wars 1 e consisteva sostanzialmente nell'incontrare vari team in più stage per poi arrivare allo stage finale che si chiama Olimpo degli Eroi e vabbè, poi chi vince lì era figo perché cioè chi vinceva nell'Olimpo degli Eroi otteneva il riconoscimento sostanzialmente da tutta la community perché era, diciamo, a tutti i giocatori veniva la notifica, sì. In sovraimpressione la scritta tipo boh, squadra di Tizio Caio ha appena vinto una battaglia nell'Olimpo degli Eroi, quindi era figo, diciamo. E in questa, diciamo, arena c'era un team che sostanzialmente faceva utilizzo di particolari abilità e fatte proprio su misura, diciamo che era un meta che funzionava benissimo nei primi stage perché era davvero troppo forte perché si basava tutto su sostanzialmente su controlli e danni ad area, quindi diciamo che bene o male i danni li facevi e le protezioni le avevi perché era tutto basato su controlli ad area in pratica e richiedeva il minimo sforzo perché sostanzialmente c'era solamente da spammare abilità, spammare, cioè senza nessun criterio, effettivamente senza nessuna abilità da parte del giocatore se non quella di conoscere la build da utilizzare, cioè quindi l'insieme di abilità da utilizzare. Quello secondo me è stato veramente un meta proprio brutto e qui mi ricollego un po' al discorso per me che cos'è un meta brutto. Un meta veramente brutto è un meta che ti permette di ottenere sempre il massimo del risultato o quasi con il minimo sforzo. È proprio il concetto di... Con zero sforzo proprio. Con zero sforzo, cioè nel senso... Però hai dimenticato la parte più bella, cioè quello che succedeva è che poi, passati i primi stage, magari non trovavi nessuno dopo, cioè... Per tipo saltavi tipo tutti gli stage fino al penultimo, l'ultimo, e diventavi quasi automaticamente. Vabbè, questo c'è da dire che succede più adesso, perché ci sono delle. Sì, cioè adesso, da quel che ho visto, ci sono delle build, delle composizioni di squadre simili a quella che era, cioè, di cui stavo parlando. Il problema, cioè, o meglio, il problema, la cosa bella dell'epoca è che Guild Wars era davvero popolato, c'erano tantissimi giocatori, e per sbaglio, comunque, una squadra di giocatori veramente forti probabilmente la incontravi, e quindi magari quei team. Sì, questo è vero, sì. Cioè, diciamo, il lato brutto è che quei team riuscivano a farmare punti, quindi ad ottenere dei rank alti, ma non riuscivano ad ottenere la gloria, chiamiamole così, perché difficilmente riuscivano ad arrivare negli stage finali perché bene o male incontravano team strutturati e fatti in un certo modo da cui prendevano le pizze in faccia, in sostanza. Okay. E boh, un altro meta molto antipatico, secondo me, era quello della prima season di TFT. No. Allora, vabbè, premesso che comunque non conoscevo il gioco, eccetera, ma sostanzialmente, fondamentalmente nessuno lo conosceva perché era appena uscito, però c'era questa build, diciamo, con cassa di un assassino, con la Guinzo, che sostanzialmente diventava... cioè era davvero ingiocabile perché non potevi fargli niente, quindi... cioè lui sostanzialmente toglieva mana alle abilità che attaccava, con determinati oggetti attaccava sempre più velocemente e riprendeva, cioè, e aveva lifesteal, quindi prendeva sempre più vita, quindi sostanzialmente, diciamo, anche con un tot di crowd control probabilmente non moriva e poi diciamo giocava da solo, eh. Marco invece? Io sì, questa domanda mi ha fatto riflettere, mi ha fatto notare una cosa che effettivamente io, ripensando un po' ai bei vecchi tempi, tutto il passato, devo ammettere che io alla fin fine non ho tantissima esperienza su pelle dei vari meta, perché anche lì, appunto, come dicevo prima, di giochi di carte, Magic, e, stato citato Hearthstone e altri giochi un po' più di nicchia che ho provato per un po' ogni tanto, così finivo sempre per tornare, appunto, come dicevo prima, a interessarmi ai formati limited, quelli un po' meno in cui non c'era bisogno di troppo investimento iniziale per la creazione di un mazzo, quindi è stato sempre un interesse molto, tra virgolette, accademico il mio, quello del leggermi le storie sul meta, su che cosa funzionava in quel momento, negli altri formati che era carino guardare, ma non provavo personalmente. E poi in realtà, a parte quello, ora che ci penso, sinceramente non ho mai giocato tantissimo in multiplayer o online quando ero più piccolo, sinceramente. È sempre stato più per giocatore singolo, quindi anche lì non c'è tantissima, non ho storie interessanti da raccontare, da portare in questo momento. Vabbè, dai, ci sta. Che cosa sono sempre, come dire, di seconda mano, mi ricordo sempre perché guardavo la community e tutta la gente che tiltava e usciva di testa ogni volta che si parlava di mazzi in particolare, di Magic. Cioè, questa la racconto così perché va raccontata, che c'è stato un periodo in Magic, penso che adesso non ci sia più perché hanno bannato alcune carte che erano essenziali per il mazzo, un mazzo che veniva chiamato eggs, ovvero uova. Egg, ok, eggs, uova, già mi piace. In Modern, se non sbaglio, che è un formato delle Magic con una certa pool più espansa di carte. E mi ricordo come alla fine il mazzo sia stato bannato, perché hanno bannato una delle carte essenziali per farlo funzionare, perché molto semplicemente il mazzo consisteva nel creare era un mazzo combo, quindi tu creavi un ciclo infinito di artefatti che venivano sacrificati per farti pescare altre carte che erano altri artefatti che poi venivano sacrificati per poi eccetera eccetera eccetera, ed è stato bannato semplicemente perché molto spesso nei tornei, tipo tutti i match in cui un giocatore aveva uno di questi mazzi finivano sempre in overtime, perché un turno per lanciare la combo del mazzo a volte ti durava anche 45 minuti o una cosa del genere. Io mi riguardavo e guardavo, ma io non voglio giocare a Modern con una roba del genere. Sembra video quello di Prozidit dove dice gioco la mucca che fa combo con il contadino. È uguale, è quello, è letteralmente quello. No, vabbè, terribile. Stavano creando la fase del cheese tasting. Mamma mia, che creava! Questo è veramente terribile. Quello è una delle tante storie che sono girate, perché poi ci sono stati altri mazzi un po' anche fuori dal mio periodo, ma ci sono storie assurde se uno va a cercare nel costruire. Ecco, secondo me ha introdotto involontariamente un altro discorso che andrebbe affrontato, ma forse non oggi, ovvero il cheesing. Ovvero... cioè, quando il meta diventa trollerino, nel senso che questa è una cosa, che è un termine più di Dark Souls, cioè il cheesing è quando tu essenzialmente sfrutti un buco, un glitch, un piccolo bug nel sistema per fare qualcosa che tecnicamente sembra giusto, ma non lo è, nel senso è moralmente sbagliato, cioè. Non è il modo in cui il gioco è stato pensato di essere giocato, non so. Sì, come dire, non stai rompendo le regole, non stai cheatando, non stai hackerando niente, però allo stesso tempo stai un po', sei un po' al limite, mettiamola così. Sei un po'... sì, cioè qualcosa che è talmente al limite che non è considerato meta quasi, no? Cioè è considerato, esatto, più trolling. E ci sono tantissime build su Dark Souls per giocare in multiplayer che sono fatte così. Ci sono tantissime guide per come battere un boss di Dark Souls in maniera molto facile. Cioè, secondo me il cheesing è il lato oscuro del meta, mettiamola così. Cioè. Ma lì si può parlare di meta in quel caso? Nel senso, non lo so, cioè, perché... Tu dici quando, scusami, il cheesing è talmente efficace nella strategia che diventa meta? È quello il caso? Anche per chi magari non lo fa solo per trolling, ma perché proprio ti fa vincere, cioè è efficace, diventa una mossa effective. Sì, è come per dire, cioè io ho questo cheesing che mi permette di farti il backstab da davanti, dici, vabbè... Cioè... Però a quel punto si parla poi di dover letteralmente patchare il gioco. Sì, sì, esatto. Di solito poi vengono patchati via questi trollerini. Adesso ho una domanda io invece. Oddio, vai. Mi è venuta in mente una cosa. Secondo voi, diciamo, nel meta quanto c'è di moda più che di meta? Cioè nel senso... Perché... Mi viene da dire che è vero che ci siano magari delle strategie più efficaci di altri, ma magari sono solamente delle strategie, diciamo, famose, e diciamo sono diventate meta perché sono, diciamo, strategie messe, fra virgolette, nero su bianco, e quindi sono, diciamo, seguibili e replicabili. Tu dici quando si crea un meta solo per più per come dire, non so, popolarità, più per, sì, popolarità, cioè, sì, esatto, più per popolarità, magari più per, appunto, moda, più per strano, è difficile perché questa è tosta. Cioè, secondo me in giochi come TFT è più facile che succeda, in un senso anche paradossale, però non lo so, è difficile da quantificare. Lì forse c'è, se ci pensi, dipende anche molto dal livello di competitività del gioco, perché un conto è quando magari succede all'inizio, diciamo per un periodo, magari l'inizio di una nuova patch in TFT, però una volta che magari si arriva, siamo sinceri, alle competizioni in cui la gente ci gioca per i soldi, perché alla fine anche lì, cioè, tutto il meta di Magic si sviluppava attorno ai tornei in cui c'erano premi in denaro, eccetera, in cui i professionisti letteralmente del gioco si mettevano lì e analizzavano tutte le strategie possibili. E lì a quel punto, cioè, se c'era qualcosa di moda, il punto è sciamata, perché non puoi, a quei livelli lì, la moda se ne va, può farsi fottere, e lì sinceramente serve solo la strategia efficace, perché... Sì, chiaramente, questo chiaramente. Quindi, alla fine, ecco, lì per Magic appunto, cioè... Siccome in Magic si guardava molto, tantissimo, quando ci giocavo io, ecco, come dire, non so come spiegarlo, nel senso, le tabelle meta ufficiali venivano fatte con i tornei, anche perché penso che quando era il periodo in cui giocavo io ancora non ci fosse così tanto la moda dello streaming, il condividere anche Magic alla fin fine. Anche lì, molto spesso lì però potrei essere un po' di parte io, mi sembrava sempre che anche nello streaming e tutto quanto fossero molto più popolari sempre i formati limited. Quindi anche lì, se non era appunto un deck per fare un po' di trolling, per provare un po' di robe. Si entrenava sempre sugli stessi mazzi, sempre sulle stesse strategie, già ben rodate, ben studiate. Quindi io lì non mi è mai capitato troppo di vedere una situazione del genere. Posso immaginare che in giochi come TFT e magari qualche comp di LOL, come sembra più quasi da... come faccio a dirlo? Quelli che hanno un po' più... come dire? Quelli che seguito? Hanno un po', non tanto seguito, ma una vita... come dire, degli intervalli di meta un po' più brevi. Perché alla fine, se ci pensate, Magic cambia il meta effettivamente a ogni uscita di set, che comunque... diciamo che il... comunque ogni... beh, adesso ogni 3 mesi, una cosa del genere. Addirittura? Stavo pensando più... vere e proprie rotazioni si fanno tipo una volta ogni anno e mezzo, adesso con le date non mi ricordo assolutamente più niente, è passato troppo tempo, però i cambiamenti veramente radicali in cui vengono rimossi dei set dallo standard, dal formato standard, mi sembra succede una volta ogni anno e mezzo, una cavolata. Mentre escono nuovi set che vanno a modificare leggermente il meta, ma non lo vanno a rivoluzionare del tutto, perché le carte si aggiungono carte, ma non se le tolgono praticamente. Ok. Comunque... quindi c'è qualche modifica, cose del genere, per cui c'è un cambiamento, ma è più dilazionato nel tempo, nella zona in cui mi sono interessato io. Per TFT, appunto, io ho giocato solo, sono arrivato in Diamond l'anno scorso e poi mi sono... no, non sono neanche arrivato in Diamond, sono arrivato in Platino, che cazzo sto dicendo, sono arrivato in Platino 2 e poi mi sono fermato, quindi non... addirittura. Il mio meta è durato poco. Mm-hmm. Un po' di flex, dai, un po' di flex. Wow. Non so se non è arrivato in Diamond in qualcosa, in qualsiasi cosa. Forse in Halo 3 si potrebbe considerare Diamond, livello 45, forse no. Su Halo 3 sì, no. 45 era alto. Fatto con i booster. Non si può dire. Visto che tu hai fatto la domanda, fammi un esempio, perché adesso sono curioso anch'io di effettivamente quando ti è capitato magari del meta di moda o come dicevi tu prima. Cioè... no, non lo so, in realtà non so se mi è capitato... Aspetta, ma l'hai fatta tu o Jacopo la domanda? Non mi ricordo. Io. No, l'ho fatta io, ma cioè, non mi riferivo ad un'esperienza, diciamo, vissuta in prima persona, era più una roba che mi è venuta in mente. Cioè, diciamo che effettivamente ora, cioè, probabilmente di moda c'è poco, perché comunque bene o male ci sono siti di, diciamo, analytics, fra virgolette, un po' a destra e manca, quindi... è abbastanza facile vedere se, cioè, effettivamente, quale carte, quali personaggi, quali armi vengono utilizzate e qual è il loro, win ratio, fra virgolette, o KDA, non so come validare i parametri, diciamo, però. Sai cosa? Forse anche quelli abbastanza fuori di testa ad andarsi a cercare il meta sui siti, sulle analisi e cose del genere, sono anche quelli che probabilmente riescono a riconoscere, cioè non si fanno influenzare dalla moda, ma vanno proprio a cercare effettivamente la statistica come dire, i dati alla mano, quindi magari quello di moda succede forse a livelli un po' più bassi della scalata del... Poi però, cioè, in realtà secondo me comunque... è vero quello che dicevi tu, che in competitive magari l'off meta si vede poco, ma devo dire che spesso quando si vede l'off meta, qualcuno giocare off meta, spesso magari non forse è troppo forte spesso, però a volte quando si vede giocare off meta i risultati sono altissimi, sono spettacolari, sì. Sono spettacolari, sia a livello, diciamo, di proprio di divertimento di gameplay, ma anche proprio come risultati nel competitivo. Certo, cioè, certo. A me viene in mente, se ripenso a LOL, cioè vedere i G2 che cominciano a fare delle composizioni delle squadre Lulu, cioè, top, sì, ma vabbè, che, cioè, stanno palesemente trollando. Sì, ok, ragazzi, però sono arrivati in semifinale mondiale, giocando, fra virgolette, a cazzo di cane, quindi... Cioè, lì mi viene in mente anche che possa essere, effettivamente, se dici a livelli alti, potrebbe essere qualche professionista che sta cercando una nuova strategia e magari sta effettivamente trovando qualcosa per appunto rivoluzionare il meta. Se stai giocando ai mondiali, l'hai trovato la nuova strategia, ma guarda, stai cercando. Lì secondo me è anche, poi entra anche un po' in gioco il diciamo il fattore sorpresa e abitudine, nel senso, se tu magari sei abituato a giocare in un certo meta, sai cosa aspettarti e diciamo sai come come andarci contro, diciamo, come quali sono le contromosse più o meno. Poi certo la variabilità da partita a partita c'è sicuramente sempre, ovviamente, però se invece ti trovi davanti a una situazione che non hai mai affrontato, comunque che hai affrontato molto poco, cioè secondo me è facile trovarsi in difficoltà, seppur magari quella dall'altra parte la diciamo la composizione della squadra o quel che è, insomma, non è ottimale. Vero, questo non ci ho pensato, questo è un risvolto positivo della questione. Fermo restando che secondo me se nelle semifinali mondiali vai a giocare qualcosa che non è meta, sei matto, perché devi essere ben matto secondo me, però ragazzi... Oppure sei nel classico film di Stallone, no? Che arrivi lì con la strategia, esatto, che nessuno si aspettava e porti a casa la coppa. Esatto. Ma mi sembra più la finale di Dodgeball, il film dove c'è... Assolutamente, esatto, bravissimo, pirata. Assolutamente. Comunque io direi, se non avete altro da dire al riguardo, possiamo passare al momento che tutti stiamo aspettando, se non salva. Vai. Sigla. Siamo anche stavolta dimenticati di passare la sigla. Get you waiting, huh? Non è vero. Non è vero, tu vi... L'avete sentita? Si è sentita? Si è sentita. È qui con noi il signor Posso Kojima. Morire felice a questo punto. Finalmente in live è con noi la sigla di Kojima. Si parla di meta. Si parla di meta, Edoardo. Sì. E Kojima è la persona più meta di tutti. Diciamo che Kojima, se stiamo parlando di meta come, ok, meta videogioco, è molto meta, ma allora noi abbiamo detto fin dall'inizio non stiamo parlando di qualcosa che va oltre il gioco, ma stiamo parlando di qualcosa che è collegato alle regole del gioco, alla manipolazione di quelle regole. Non è che stiamo parlando di giochi che parlano di giochi, roba alla Nolan, non toccare mai. Stiamo parlando di... ma perché c'ho la chat aperta? Ho detto che devo chiuderla, Ma no, legga la chat, la chat siamo noi. Però vabbè, per non parlare di questo, parliamo di Kojima come qualcuno che ha ben in mente il fatto che i giocatori comunque il meta se lo costruiscono in testa, come diciamo prima. Ovviamente applicato ad un gioco single player, come sono di solito i suoi, a parte qualche eccezione, è più difficile parlare di meta. La cosa bella è che lui comunque cerca di stravolgerlo. Cioè, nel senso, la sua passione è cambiare le carte in tavola. Lui dice, no, tu ti piace sparare in testa alle persone, ci metto gli elmetti, porco due. Cioè, nel senso... La cosa che... Jacopo, in questo momento non ho idea di dove tu voglia andare a... Allora, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, c'è questa cosa stupenda che il gioco ti countera. Cioè, tu giochi il tuo gioco, no? Cioè, tranquillo, fai le tue cose, le tue tattiche, e dici, ok, ho scoperto che la tattica che funziona di più è sparare in testa ai nemici per addormentarli. Il gioco reagisce e mette gli elmetti. Dopo un po', i nemici cominciano a portare gli elmetti e tu non riesci più a sparare in testa ai nemici. Se spari al corpo, i nemici si mettono il giubbotto antiproiettile. Cioè, il gioco si evolve con te. Cioè, in base alle tattiche che prendi, in base a quello che fai, il gioco ti countera, ma non è una cosa solo di Kojima, in realtà lo faceva pure tipo Batman, no? Cioè tu, se usavi troppo i gargoyle per appenderti, ci mettevano gli esplosivi e poi tu dopo che ci salivi lo saltavi in aria, no? La cosa bella, cioè, non so, mi piace questa idea di avere il meta anche in un gioco single player e di prenderti un po' per il culo cercando di adattarsi, no? Cioè, è un po' quello che ha sempre, no, che ha sempre fatto. Non so se è questo che si può, non lo so, facciamo sempre fatica a far entrare Kojima in tutte le puntate, lo sai, però... Forse mi ricordo, cioè, malissimo, Jacopo, non c'era una cosa simile anche in Death Stranding? Mi sto immaginando le cose adesso. No. Però qualcosa del genere, ma non troppo. Non troppissimo. Forse erano i muli che si adattavano in qualche modo, non mi ricordo proprio. Non troppissimo. Però sì, diciamo che... No, vabbè, per parlare del vero meta, c'era... Comunque c'erano delle modalità multiplayer... In alcuni giochi di Kojima, diciamo la verità, c'era Metal Gear Solid Online, eccetera, Metal Gear Online, quello che era. Diciamo che era tutto talmente ridicolo che il meta era gente con i cappelli da pollo che vanno in giro a tirare le granate che fanno saltare nelle persone, tutti i decoy, cioè i pupazzi gonfiabili a forma di snake che attirano le persone. Cioè il meta era essenzialmente fare impazzire il gioco a un certo punto, cioè farci capire nulla a nessuno, era molto confusionale. Poi sarò un po' stronzo io, Jacopo, ma parlando prima del... Vabbè, parlavamo prima del meta di Twitch adesso e mi sono tornate in mente le Beauty and Beast in... Oddio! Per... No, ragazzi! Come dire... Prego, Kojima prego. Fa pornografia. Kojima fa pornografia, cioè è inutile che voglio dire. Se vogliamo parlare di quel meta, qui si apre un mondo. C'era un gioco su PSP che letteralmente aveva i porno dentro. Cioè, tu sbloccavi clip porno. Il Garage 2, mi pare. C'era un gioco... Non so se era il Gear Solid 4 o un altro... A parte le Beauty and Beast, c'erano proprio delle clip, cioè no, è porno. Poi Quiet, vabbè, non stiamo qua a parlare di Quiet. Vabbè, se okay. Quel meta sarà per un'altra puntata. Quel meta sarà, sì, ce lo portiamo in un'altra puntata, l'Opstab. Tanto non abbiamo parlato del meta, non abbiamo fatto dramma. Sì, alla fine non abbiamo fatto troppo dramma. Abbiamo fatto dramma, ma forse non serve nemmeno farlo, voglio dire. No, vabbè, infatti. Forse è già talmente vecchia la storia a questo punto. Era un po' in gag. Poi pensa a quelli che ascolteranno tra 2 mesi questo episodio e non si ricorderanno già più la storia del meme. Esatto. E poi guardavo che, diciamo, le due streamer bannate, di cui vabbè non farò nomi per correttezza, diciamo, anche se vabbè, praticamente lo sanno tutti, però sono state perculate anche dai caster di LOL durante gli LEC, che sono i campionati, diciamo, europei di LOL, la Lega Europea di LOL. Non ho capito bene in che modo, ora vediamo se riesco a trovare il video al volo, perché secondo me fa abbastanza ridere, cioè è simpatico da vedere. Sono messi dentro una vasca a bagno a fare il casting. No, non credo, ma... Comunque sì, vabbè, per chi non sapesse, introduciamo il discorso, diciamo che c'è questo meta, tra virgolette, su Twitch, che ci sono molte streamer che magari non sono mai state famose, alcune, per essere streamer prima di questo momento, quindi non è che erano giocatrici o facevano tipo just chatting o musica o cose del genere, perché ricordiamo, su Twitch ormai la categoria più famosa è Just Chatting, cioè quello che stiamo facendo noi, cioè chiacchierare e basta. E ASMR, esatto. Sì. Questa nuova ondata di streamer che essenzialmente sono seminude, cioè molto... Ondata, pun intended. Esatto. Seminude che si scrivono tipo i nomi dei subscriber sul corpo, stanno tipo dentro le maschere da bagno. In canottiera potresti scriverti qualche esatto. Subscriber da qualche parte. Esatto. Che fanno ASMR molto spinto, fanno vedere diverse parti del corpo che in teoria sono censurate, insomma, cose che in teoria sarebbero bannabili, che sono molto sessualmente, come dice, spinte, e quindi su un sito che è nato come appunto un sito per ragazzi, per ragazzini a volte, che guardano gente che fa cose strane su Fortnite, o Shots Fired non è nato per altre cose, è nato con Fortnite, però è strano vedere, c'è stata molta, come posso dire, c'è stata una controversia, no? con gli altri. La polemica è quello, cioè quanto in là ci si può spingere prima di cadere nell'indecenza, mettiamola così. Ma secondo me il problema è anche un altro, cioè non è solamente quello, che è un discorso secondo me che è impossibile da definire, no? Come dicevi tu prima, c'è un giudice americano che ha detto: quando vedo del porno lo riconosco, e qui purtroppo è lo stesso problema, vai a diventare caso per caso. Il problema secondo me è che, dicevamo l'altro giorno con Edo, devi in qualche modo garantire che se tu vai su questo sito per vedere gente che gioca a un videogioco così, quel contenuto non è visibile, cioè non è trovabile facilmente, non è che diciamo ti fare una cosa del genere ti dà fastidio, ti toglie pubblicità, ti toglie soldi se sei Twitch, e sembra quasi voler rendere il corpo, specialmente quello femminile, qualcosa di sconcio in generale, ma in realtà è secondo me più un fatto di definire quella che è la tua piattaforma, cioè renderla più definita, renderla più sicura per un genitore che magari vuole non tanto rendere i suoi figli persone asessuali o che non hanno nessuna esperienza della sessualità, che sono perfettamente preservate, ingenue e perfette, ma semplicemente hanno una visione più sana, magari più controllata, cioè hanno un approccio più controllato a questo mondo, no? Cioè hanno qualcosa di più graduale, invece che già a 6 anni subito, bam, cioè così, sì, esatto, senza contesto. Insomma, per fare un esempio un po' forse datato, ma se accendo Disney Channel preferirei che non ci fossero trasmessi i porno sopra, diciamo così, anche se forse, vabbè, Disney Channel è un brutto esempio, ma no, però in realtà giusto quello, cioè ci sta secondo me. Però vorrei metterla anche a ricollegarmi all'argomento di questa serata con un'altra cosa. In effetti un'altra cosa a cui sicuramente mi ero venuto a pensare, pensando anche a tutti, diciamo, definiamoli creator su Twitch, di quelli che vogliono portare un contenuto su Twitch, e mi è tornata assolutamente in mente la definizione prima di Edo del un meta non dovrebbe avere come dire, una strategia da massimo risultato con minimo sforzo prima. Mi è tornata in mente questo, diciamo, momento di Edo. Quindi io non voglio insinuare niente, però leggeteci quello che vi pare. Marco no. Quindi sì, cioè, io dico solo che un meta in cui, come diceva Edo, massimo risultato col minimo sforzo è un po' ingiusto, è brutto, ti senti un po' una merda a dover giocare in una stagione del genere, no? Con questa patch, con questa... Sì. No, è chiarissimo quello che intendi. Il problema è che, diciamo, errori se ne commettono anche a livello di bilanciamento. E mi fermo qui, non vado oltre. Quanto vorrei fare tutta una conversazione come queste. Perché, diciamo, ci siamo capiti, diciamo, non vado oltre. Allora, anche lì vorrei spezzare un'arancia, come si dice, a favore di queste persone che stanno sfruttando un po' l'attuale meta, per dire hanno delle doti e le stanno non solo sfruttando, le stanno coltivando anche. Cioè, è vero che magari tu puoi opinare che una persona come Paolo Cannone ci mette un'infinità più di sforzo per creare contenuti, per creare intrattenimento, rispetto ad una... Non posso dire nomi, se no generiamo drama, però... Per dire, cioè, in questo momento, guardando nella colonna a fianco alla schermata dove sto guardando la nostra diretta, mi viene da notare Sabaku, che salutiamo tantissimo, 1400 spettatori contro un 15.000-8.000 di altri canali che non... No, esatto, c'è una persona del genere che sicuramente, però io dico, pensa a qualcuno di meno, cioè di con contenuti meno esagerati, no? Cioè pensa a uno come, che cazzo ne so, cioè una persona che magari è solamente brava a giocare, non fa intrattenimento, non fa niente, sta lì, gioca, non c'è neanche questa grafica strafiga, così. Io mi ricordo ai tempi Gosu era uno che portava gameplay eccezionale, ma mi ricordo che non aveva webcam, non aveva l'overlay, non aveva niente, cioè era solamente LOL, si gioca e basta. Sì. All'inizio lui non aveva neanche microfono, quindi giocava senza microfono, senza niente, c'era davvero solo gameplay e musica in sottofondo. E la cosa bella è che il gameplay parlava per lui, cioè lui era una vein talmente leggendaria che è diventato famoso solo con il suo gameplay della sua vein, mi ricordo, no? Sì, era come guardare un pittore che dipingeva senza dire niente, musica in sottofondo, sì. Basta, senza neanche guardare chi era. Quello è figa come cosa, però se ci pensi non è tanto diverso come sforzo relativo a Twitch, capito? Anzi, io potrei quasi dirti, guarda che forse queste persone si sforzano di più di portare intrattenimento perché ci mettono più sforzo nell'illuminazione, nei costumi, nell'andare in palestra, nello scrivere i nomi. No, vabbè, quello no. Vabbè. Però dico, cioè, anche vabbè, quella però è un'interazione con la chat, se puoi vederla in maniera... Sto facendo l'avvocato del diavolo, capitemi, cioè non è certo, che sto davvero credendo a queste cose, su questo però... punto ti stavo dando ragione, cioè, di sicuro... Ma no, però è... Cioè, in realtà è un... Cioè, non si tratta neanche tanto di fare l'avvocato del diavolo, cioè... Sono, secondo me, diciamo, valutazioni da tenere comunque in considerazione, cioè non è, cioè, nel senso, è oggettivo che è così, cioè non... E quindi per questo vuol dire, cioè, Kojima fa bene a mettere le persone... quello ovviamente, ma no, forse era più da dire che non stiamo dicendo di sicuro che nel meta di Twitch non ci sia gente che si impegni. Molti di greco qua si impegnano a cose del genere. Quello che dà un po' fastidio a questo punto è solo la cosa del fatto che Twitch sia in questa eterna, diciamo, questo piede internamente in due scarpe, sembrerebbe. Sì, esatto, questo è vero. Come dire, su certi aspetti della sua piattaforma, che magari non è nemmeno così, magari c'è una cosa che stiamo immaginando noi, io non sono di sicuro esperto, non ho dati, non ho statistiche, non ho chissà che cosa, però mi dà l'idea che per gente, come dire, il fatto di questa eterna indecisione vada a danneggiare, diciamo, un certo tipo di streamer piuttosto che un altro ancora, finché non si decidono a prendere una posizione più ferma sulla questione o... Sono d'accordo, solo che, cioè, per me il problema è davvero, cioè, non credo ci sia una soluzione, nel senso, è vero da un lato che la piattaforma nasce per un determinato tipo di contenuto, determinate, diciamo, regole, bla bla bla, eccetera eccetera. Il dato di fatto è che però questa piattaforma si è evoluta, ha portato un nuovo tipo di contenuto. Mentre da un lato magari prima poteva essere gameplay, se la piattaforma fosse rimasta gameplay, cioè, diciamo, anche la live di stasera non avrebbe avuto senso. E da un lato dici, vabbè, ok, però alla fine ci sta che la piattaforma si evolva. Il genere umano è quel che è, quindi la piattaforma si è evoluta anche, diciamo, non in modo sbagliato, ma in maniera, mettiamola così, molto provocatoria. Ma infatti, cioè, mi rendo assolutamente conto che Stiamo diciamo che adesso stiamo sì assolutamente di etica e morale, ma ovvio, cioè, secondo me è però la solita storia dei Betamax e delle VHS, quindi sì no, il fatto è che secondo me la piattaforma, o comunque diciamo, se si evolve il contenuto, si deve evolvere anche la regolamentazione del contenuto in maniera contestuale, nel senso, per fare un esempio, diciamo, per spararla proprio grossa, l'Italia della fondazione della Prima Repubblica non è la stessa Italia di oggi, quindi diciamo, a livello di Costituzione magari ci sta che dei punti vadano modificati, perché oggettivamente il contesto non è lo stesso, quindi diciamo, le regole che regolano l'ambiente e l'ambiente stesso dovrebbero un po' evolversi in maniera contestuale, sì. Secondo me. Per me il problema che ha Twitch è, come diciamo prima, anche quanto velocemente si evolve questo contesto e quanto tempo ci vuole per scrivere regole che siano abbastanza generiche da coprire più casi, anche questo ma abbastanza precise da non dare problemi a chi è onesto e spontaneo e sincero, no? Perché un conto è una tizia che fa streaming e ci mette la passione e l'anima e gioca bene o porta contenuti pensati, studiati, che fanno bene alla piattaforma, e che magari perché fa caldo sta in canotta come ci stai tu. Un conto è quella, un conto è una tizia che semplicemente sfrutta appunto il meta e si mette dentro una vasca da bagno a non fare nulla e scriversi i nomi sul braccio, no? Cioè, sì, esatto. Sono due livelli di sforzo diversi per un modo di presentarsi che a prima vista, cioè superficialmente, se lo descrivi magari in un certo modo con delle certe parole, è la stessa cosa, no? Sì, quindi sì, cioè, purtroppo è complicato scrivere regole bene, velocemente. Ma questa volta è una cazzata. Diciamo che, per tornare all'argomento di questa sera, sì. Noi in questo momento stiamo osservando, stiamo osservando un meta non malsano, perché malsano è estremo, che però sta tendendo un po' al malsano, no? È come, parlando sempre delle mie esperienze cartacee, letteralmente, è quel mazzo che sta, come dire, sta spuntando sempre di più ai tornei di grande, con premi grossi, si stanno insinuando sempre nuove carte, le nuove espansioni sembrano ancora supportare il nuovo formato, facendo uscire nuove carte da aggiungere al mazzo, diciamo così, e la community si sta un po' lamentando, sta dicendo, scusa, casa produttrice di carte, non stai vedendo che c'è un po' sto mazzo qua che sta iniziando un po' a rompere i coglioni, comunque, cioè, come dire, un minimo di fastidio lo sta dando, anche perché noi che vorremmo giocare con altre strategie vorremmo divertirci un po' anche noi, e c'è ancora la casa, come dire, i designer che continuano un po' a fregarsene, continuano a non bannare nessuna delle carte base del mazzo. Ma perché non devi bannare le carte, devi bannare i giocatori, e quindi la mia proposta è questa. La proposta è questa: invece di regolamentare Twitch, regolamentiamo gli utenti. Cominciamo a fare tipo, magari, tutte le persone che si collegano a questo stream vanno direttamente nella Orny Jail, gli diamo una botta in testa e li mettiamo in prigione. Vengono bannate in automatico. Prima avevi citato ban significativi di questo tipo di meta, che però mi sembra, da quello che vedevo nella pagina di Twitch, siano già stati sbagliati, o sbaglio, perché se una persona viene bannata 6 volte, io direi che ora li bannata per sempre. Il problema è che comunque queste persone adesso hanno aperto OnlyFans e quindi il mercato l'hanno trovato. Cioè, quindi voglio dire, c'hai, sì, ma cioè, questo è il punto, lascia un po' che di Twitch anche a noi altri. No, ma infatti è proprio questo il punto. Ah, a parte che Vorla dice quanta saggezza, beh, chiaramente Vorla, nel senso, beh, guardi con chi, che ospiti ci sono stasera nella live, cioè nel senso. Invece Andrea diceva cioè Andrea ha fatto un'affermazione secondo me corretta: le persone creano il meta, le persone sono cavalli, i cavalli sono orribili. Il sillogismo più corretto della storia. È chiaro, cioè è oggettivamente così. È chiaro. Ora dice: perché fanno tanti soldi? Sì, fanno tanti soldi. Diciamo, questo però è uno degli effetti. Cioè, fanno tanti soldi, però hanno come effetto negativo che mettono in discussione la monetizzabilità della piattaforma, perché molti, diciamo, brand non si vogliono associare al contenuto sessuale perché crea problemi, purtroppo, puritanismo, eccetera. E secondo me crea anche problemi a lungo andare, perché molti, diciamo, creator che vogliono fare contenuti hanno questa concorrenza, e quindi, cioè, contenuti che durano per più tempo, che ti attirano più clientela a lungo termine, diminuiscono o comunque vengono come si dice, disincentivati. È un po' quello che è successo con YouTube, no? Che piano piano è andato scemando, sì. Dai più potere a mezzi di monetizzazione alternativi, come nel caso YouTube Patreon, non Nebula, quello che è, o nel caso di Twitch OnlyFans, per queste qua, o quello che è, insomma, donazioni, cose che non passano per Twitch, capito? Quindi secondo me per Twitch non conviene al 100% sostenere le hot tub streamers al 100%. Ma raga, comunque, cioè, secondo me il vero problema è che dal momento in cui magari questa, cioè, è stata creata la categoria hot tub, pool e end qualcosa, non mi ricordo come si chiama, il nonsense è che da quando è stata creata la categoria questi streamer hanno generato una nuova categoria che non esiste, cioè sono passati è vero. All'ASMR in leggings ed in posizioni che credevo fossero impossibili per il genere umano, cioè ad arrivare al, cioè, ragazzi, mi dispiace, ma questo esempio lo devo citare, è troppo eclatante, fino a, diciamo, cioè, nel senso, strusciare il microfono fatto apposta per l'ASMR sulle proprie parti intime. Cioè, allora, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, nel senso, una volta che ti viene, diciamo, vieni riconosciuta in quanto quella categoria di streamer, tu dici: ah no, vabbè, ora il giochino non mi piace più. Ma beta, perché hanno cambiato le hanno pagato, esattamente. Hanno fatto la pancia, hanno cambiato meta. Guarda, in realtà stavo per dire, temo che questo episodio sia leggermente degenerato, e posso immaginare questa parte nel podcast tra un paio di mesi, però effettivamente ci sta quest'ultimo commento di Jacopo prima forse di avviarci alla chiusura, che effettivamente è quello, no? Cioè, il meta, dopo che il meta si è standardizzato, hanno cambiato le regole, hanno detto, perché prima effettivamente questa categoria era al limite del meta, no? Era quel mazzo che, come dicevo prima, stava rompendo le balle, ma non era sicuro di quanto si potesse tirare la corda, no? Di quanto si può continuare a giocare con questo mazzo se poi c'è il rischio che venga bannato da un giorno all'altro dai capi supremi. Però poi, a quanto pare, c'è stata la legittimazione totale dalla nuova categoria, e a questo punto vuol dire: ah, ma allora, scusa, adesso che non abbiamo più paura che possa essere bannato questo mazzo, come possiamo farlo evolvere di nuovo? Qual è il passo successivo, no? Qual è il prossimo limite? C'è questo desiderio di esplorazione, no? Di sfidare i limiti umani, un po' come in Autobots. No, stiamo chiudendo tutti quanti i discorsi. Un roboro, cioè sì. Volevo portare all'estrema follia questa puntata prima. E quindi, come Watch Dogs lì, trovate il vostro londinese. Esatto, no? Cioè, quanto si può spingere il sistema prima che crolli su se stesso. Comunque, guarda, che gente, secondo me ha un buon punto, nel senso che dice: nel mondo esistono tanti tipi di linguaggi, loro usano quello, diciamo, basato più sul, diciamo, sui sensi, cioè diciamo, proprio sull'appagamento visivo, immagino che intenda, sull'istintualità delle persone. E secondo me dice la piattaforma, cioè non, diciamo, dovrebbero avere una piattaforma a parte fatta apposta per boh, questo tipo di stream, questo tipo di contenuto come l'SMR, diciamo, eccetera. E... cioè io in realtà sono abbastanza d'accordo. L'unica cosa è che appunto secondo me Twitch come piattaforma non ha ancora, appunto come dicevamo, una serie di regole, diciamo, che possano definire in maniera, diciamo, magari più stringente il tipo di contenuto da portare sulla piattaforma. E purtroppo temo che questo non sia facilmente risolvibile, perché se da un lato magari ce n'è bisogno, dall'altro c'è bisogno che non ci sia, perché poi magari dalla, cioè l'altra faccia della medaglia è un po' dire il boh, però effettivamente quanto possiamo limitare la creatività delle persone. Anche quello poi è un mondo che, cioè, si apre un mondo, nel senso, qual è la, diciamo, dove finisce la creatività e dove inizia il, diciamo, la volgarità e tutto quanto ne consegue. Non lo so, ragazzi, alzo le mani. Dicevamo prima, il problema non è se è giusto farlo, è giusto non farlo. L'unica cosa che dà veramente fastidio adesso è che Twitch non sta continuando a voler prendere una posizione decisa. Cioè, se vuoi che si lasci, cioè, dillo, ok, a noi va bene, basta. Cioè, è proprio quello che ci... almeno a me personalmente dà un po' fastidio. Cioè, che proprio loro siano in questa posizione in cui nessuno può dirgli proprio nulla contro. Cioè, se ne approfittano. E questo è l'approfittarsi di questa multinazionale, questa aziendona grandissima. Anche poi di Amazon, è approfittarsi di, come dire, di un'altra di quelle di Amazon e sfruttare un po' la situazione senza mai rimetterci nulla. E dà fastidio un po' quello, forse, anche almeno a me personalmente, però no, secondo alla fine me non ci è sta. Che sia così attivo sulla piattaforma, quindi non è che... Ma guarda, Borla, io in realtà per quello che, per l'ultima frase che hai detto... che semplicemente non mi piace un canale gaming, si è accostato ad un canale sostanzialmente a luci rosse con listino prezzi associato. Io in realtà per questo non sono molto d'accordo, perché fondamentalmente, cioè, diciamo, da un lato è la community che fa la piattaforma, dall'altro è la piattaforma che fa la community. Ma grazie Marco, ma non dovevi. Sono arrivato adesso, perché ma dai. L'altra volta l'ha fatto Jacopo, ho detto sto giro. Facciamo uno o due. Non interrompere, dai, il discorso. Grazie per il sabato comunque. No, volevo dire che, cioè, dal momento in cui la piattaforma diventa, cioè si apre a nuovi tipi di contenuti, come per esempio il just chatting, che... diciamo, ok, in questo caso si incentra sul mondo del gaming, ma potrebbe benissimo incentrarsi su mille altri mondi. Guarda, cioè, ad esempio, c'è il canale ufficiale del Milan che diciamo commenta le partite in diretta, eccetera. Ma per fare un esempio davvero scemo, per fare un esempio altrettanto scemo, la Jalappas che commenta in diretta le partite del campionato europeo di calcio. Che lì l'ho visto l'altro giorno, in che anno siamo di nuovo? Con diciamo, mezzo concerto dei Gemboy nel mentre, figata atomica, secondo Mamma me. Mamma mia, però, che cazzo è? Non sapevo quella dei Gemboy, sinceramente. Cioè, secondo me non è tanto quello, cioè, perché ormai, cioè, secondo me ormai è inevitabile e dobbiamo un po' farne, diciamo, accettare il fatto che Twitch non sia una piattaforma dedicata solo ed esclusivamente al gaming. Cioè, ormai è... è così, secondo sì, però, me. Però non è neanche... cioè, quello che dicevo è che non è neanche una cosa che ti aspetti di vedere allo stesso livello del resto di internet, perché... diciamo che ha un po'... ha tanti tabù associati, il sesso, no? È una, sì, delle sì, cose che, è una delle cose che più ti può fottere il cervello. Quindi ci sta che tu dica, ok, come genitore, ma anche come... persona che usa la piattaforma, non vuoi vederlo nello stesso pool, scusate il pan, però di tutti quanti gli altri canali, qualunque essi siano, cioè qualunque sia il contenuto, cioè è come dire, è sullo stesso piano uno che fa un video fa vedere un video di, che ne so, l'Isis che taglia la testa a un ostaggio, rispetto a uno che fa un video di Minecraft playthrough, sì. Speedrun, cioè non è lo stesso tipo di contenuto, ci sono angoli dell'internet specifici per vedere quel tipo di contenuto rispetto a una cosa generalista come Twitch. Perché? Sì, perché appunto ci sono cose che richiedono molto più contesto, che richiedono molti più asterischi per essere come diciamo, assorbite, per essere guardate in maniera neutrale o almeno in maniera con coscienza, no? Perché appunto un bambino di 12 anni, un bambino di 6 anni hanno risposte molto diverse a quei contenuti che consideriamo sensibili, e non è secondo me non è solamente il fatto che siano tabù, cioè non è solamente il fatto che siano argomenti che ci rimangono difficili da considerare, cioè di cui parlare, o che hanno tanti pregiudizi intorno, che hanno tante cose intorno, così, cioè proprio secondo me è proprio qualcosa che tu come cervello classifichi in maniera diversa, cioè la assorbi in maniera diversa, forse anche per quello, non lo so. No, sono d'accordo, sì, che più o meno è quello che ha scritto anche Vorla adesso. Scusami, stai dicendo che Twitch sta rivoluzionando il meta dei siti di streaming in questo, con questo appunto, in questa nuova situazione, diciamo. Sì. Cerco sempre di riportare la puntata sull'argomento che stavamo cioè, no, però è vero, c'era un meta, no? Delle chat, delle webcam, come si chiamano? Le webcam sì, girl? Le cam girl, sì. Le cam girl, grazie. C'era sto meta delle cam girl, c'erano ste cose tipo chat roulette, c'erano altri modi di interagire in quel modo, c'erano altri siti dove andare per questo contenuto, ora è tutto su Twitch, e questa cosa secondo me ci può stare che sia vista un po' male, perché cioè non è che vuoi togliere per forza una parte comunque importante della vita umana da una piattaforma generalista, però secondo me puoi anche metterla su un piano diverso, giustamente, non so, cioè un po'... Grazie Smilerop per il follow intanto. Cioè, secondo me, allora, il mio parere personale è che sì, cioè, nel senso, secondo me, per quanto sia da garantire la libertà, di creatività, beh, tutte quelle cazzate là, a me non piace effettivamente che, diciamo, ci sia quel tipo di contenuto su una piattaforma come Twitch. D'altra parte, però, secondo me, non è sbagliato che ci sia. Cioè, nel senso, secondo me ci può stare. Il vero problema è quello che dicevi tu, Ia, secondo me. Che devono esserci dei regolamenti, delle barriere architettoniche, diciamo, all'interno della piattaforma, che limitino le visualizzazioni. Che non lo mettono sullo stesso piano, sì, che te lo rendono una cosa speciale. Allora, cagata immane. Nella mia live, io, per sicurezza, per rischio bestemmie, cose varie, ho selezionato l'opzione questa trasmissione è adatta a un pubblico adulto. Giustamente la canotta, vero. La canotta, diciamo, è a rischio ban. Secondo me ci vorrebbe un'impostazione del genere per quei canali, ma diciamo con un controllo sugli account, con un controllo su... Non ho la più pallida idea di come si possa fare una cosa del genere, ovviamente, però secondo me ci vorrebbe un controllo sugli account e sugli ingressi che determinati account fanno a determinati canali. Non ho idea, la minima idea di come si possa fare questo, ribadisco, però credo che bisognerebbe fare una cosa del genere. Ma questo è un po' quello che diceva anche Borla, il fatto di YouTube Kids, cioè tu hai un modo di dire ok, questo contenuto è flaggato come per bambini, quindi è adatto alla visione dei bambini, è soggetto a più controlli ed è più limitato, tipo, che ne so, i canali, cioè i video su YouTube per YouTube Kids non hanno commenti, non hanno mi piace, non hanno niente, non hanno nessun tipo di interazione. Perché? Perché l'interazione genera confusione, genera problemi di, come si dice quando hai di qui pro quo, cioè di... Sì, vabbè, sì, sì, siamo capiti. Sì, sì, sì. Che magari l'interazione può creare anche un problemi tipo ho conosciuto una persona che è mezza pedofila in questa sezione di commenti su, su YouTube. Cioè, cioè, creano tanti problemi, no? In le chat. Magari tu dici, ok, anche su, su Twitch, se hai questo tipo di contenuto, limiti la chat, cioè in qualche modo, no? In modo che un bambino non possa, non possa interagire, limiti il canale in modo che un bambino che ovviamente ha meno di 18 anni non possa vedere, cioè puoi fare tutte queste cose. E quello che appunto rischi di fare però è magari peggiorare la situazione, che poi dicevo prima, cioè non so, cioè rischi di rendere la cosa ancora più tabù, ancora più, cioè ah, boh, vero. Non so cosa si può fare sinceramente. Potrebbero semplicemente cambiare l'algoritmo. Se tra i canali consigliati ci vanno sempre le stesse, è normale che vanno tutti là. Twitch potrebbe anche far emergere canali minori, in questo modo si riequilibra tutto, allo stesso tempo mitichi un meta. Non voglio fare il guastafeste così, ma temo sempre che, come dire, l'argomento del podcast è andato un po' a deviare, non che sia sbagliato, ho fatto una digressione, ma semplicemente dico solo, forse vorrebbe fare un'altra puntata per parlare di queste cose. Anche vabbè, perché però non so, dai, alla fine quali siano gli orari di Edo, ma giusto facevo notare, è già mezzanotte a questo punto. Vedi sì, come sì, passa il no, tempo. Ma infatti comunque la digressione secondo me ci stava, dai, era parte del discorso. Cioè, comunque stare, cioè, si tratta comunque di meta in un certo senso. Sì. Cioè, secondo me ci può stare, insomma. Sì, comunque guarda, secondo me il cambiare l'algoritmo rientra nel, diciamo, nel pacchetto di regole da magari modificare per rendere più fruibili determinati contenuti rispetto ad altri, o semplicemente per regolamentare i contenuti. Cioè, sì, secondo me ci sta. Comunque dai. Che dire? Digressione, punto dai, chiudiamo la digressione. Comunque volevo dire una cosa, un'ultima cosa. Vai. L'ultima parola a Jacopo. Abandoned non è un gioco che sta facendo Kojima, ma forse Silent Hill. Dico solo questo, cercate questa, è veramente la trama del bianconiglio, cioè ma sempre più profondità questa cospirazione, è tipo hanno ucciso Kennedy, cioè è una roba che nell'ultima settimana è esplosa. C'è finito pure Schreier dentro, cercate la cospirazione per favore. È nel nuovo meta delle cospirazioni. Esatto, è il nuovo meta delle cospirazioni di Kojima. Qualsiasi gioco annunciato potenzialmente lo sta facendo Kojima, questo è il nuovo perfetto, meta. Perfetto, perfetto. Ma a proposito, domanda proprio sul finale, così. Ma avevo letto che ci sarebbe stato un annuncio da parte della Square Enix su Full Metal Alchemist, cose del genere, ma questo annuncio c'è stato? Si sa qualcosa? No! Io personalmente vaffanculo, vaffanculo, chiudiamo la live, me ne vado. Full Metal Alchemist, poi in che anno siamo? Non lo so, ragazzi, però cioè, era stato dato un annuncio da qualche parte, qualche fonte, c'era sto rumor di una possibile collaborazione Full Metal Alchemist Square Enix. Mi spiace. Sembrava che ci dovesse essere un tipo Final Fantasy 17, l'alchimista d'acciaio. Non lo so, forse in realtà alla fine l'annuncio che doveva esserci poi è stato Final Fantasy, diciamo, il Souls-like, quindi non so se poi è stato, cioè si è concluso tutto con quello, ma vabbè, ne parleremo prossimamente, non lo so, scusate, mi è venuto il trip adesso. E chi sta tenendo il fantacalcio degli sviluppatori combatti da Microsoft in questa stagione di acquisti? Hanno appena acquistato un gioco. Ok, no, l'hanno comprato. Sì, Bobo Vieri. No, hanno comprato uno sviluppatore interessante, la sviluppatrice di Portal e Left 4 Dead. E giustamente la notizia è: la sviluppatrice di Portal Left 4 Dead passa a Microsoft. È la singola sviluppatrice. La notizia la tizia è quella che ha creato l'idea, insomma, che aveva creato. Sì, ma nel senso, aveva uno studio, hanno assunto Kim Swift. Lei. No, proprio lei, che prima stava in Stadia. Okay. La stessa notizia sotto, rumor dicono che aiuterà Kojima con un'esclusiva. No, okay, cioè, anche il fantacalcio adesso c'è, cioè, Kojima, capito? Anche ogni sviluppatore che cambia. A questo punto chiamalo Fanta Kojima e siamo a posto. Fanta Kojima. Va bene, dai. Bene ragazzi, direi che siamo arrivati alla fine. Per questa seconda puntata con, diciamo, di collaborazione fra me, ringraziamo la chat, cioè, gli abbonamenti, tutto quanto. Mi sono scritto il vostro nome da qualche parte mentre non guardavate. E niente, lascio Jacopo e Marco lì, diciamo, le onorificenze del caso per concludere anche, diciamo, la registrazione del podcast. E niente, buonanotte a tutti, grazie per la compagnia. Buonanotte a tutti. Quindi dopo questo la facciamo in diretta o finiamo lo stream prima? Non ho capito come funziona. Vai, tutto in diretta. Okay. E quindi dopo questa puntata che, come dire, ha rivoluzionato il meta delle puntate di questo podcast, noi vi ringraziamo per aver ascoltato. E io ero Marco. Io sono ancora Jacopo. E anche il nostro host Edo qui con noi, quindi continuate a giocare. Ciao. Ciao.